fare, l'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, 18 e 7 minuti, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta come ogni sera, chiamateci questa sera, un'altra settimana insieme con Si Può Fare, chiamateci soprattutto da Roma, perché oggi inizia la pedonalizzazione di Piazza di Spagna, niente proprio di meno che uno dei luoghi simbolo della capitale, della città, zone pedonali di tutta Italia, chiamateci e raccontateci come va, per esempio la zona dei Fori Imperiali, vi ricordate l'anno scorso, la scorsa estate, poi non se ne è saputo più nulla, funziona, non funziona, Piazza di Spagna, vi piace, non vi piace, 800 24 00 24, oh, ma naturalmente oggi è il giorno, uno dei tanti, ma insomma è il giorno della riforma del Senato che ormai l'abbiamo capito, va in discesa. A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale la frittata è fatta. Tra guastatori e giudici d'assalto, tra sceneggiate e giudici d'ascolto, praticamente la frittata è fatta. Paesa. In attesa della relatrice, il gruppo Movimento 5 Stelle conferma che questa porcata di riforma non merita la partecipazione. Vabbè, il linguaggio non è quello adatto, poi la vostra valutazione era nota. Il linguaggio, come è stato fatto presente dalla Presidenza, vabbè. Il Movimento non ci sta, quindi ha abbandonato l'aula solo per quanto riguarda la legge di riforma costituzionale. Non ha intenzione di spedire qui in Senato la classe più mediocre della politica, quella più corrotta, addirittura dando loro l'immunità. La frittata è fatta, perché sennò poi dicono che siamo filogovernativi, che siamo renziani, che appoggiamo la riforma del Senato, che non sposiamo mai il punto di vista dell'opposizione. Queste erano le voci del Movimento 5 Stelle che conferma la propria ostruzionismo, la propria opposizione, esco, mi si vede di più se esco, se sto dentro dall'aula, eccetera eccetera. Il senatore Petrocelli, avete sentito, parla esplicitamente di porcata. Ormai questo deve essere per forza l'aggettivo che si usa a proposito della riforma, delle riforme costituzionali, redarguito da Gasparri che chiede un linguaggio più consono all'aula. La frittata è fatta, insomma il fatto è questo, che approvato poco fa per esempio un altro articolo, articolo 9, questo sicuramente piacerà a molti italiani, via libera al Senato senza indennità, l'indennità parlamentare per la sola Camera dei Deputati, quindi il prossimo Senato non avrà l'indennità, i senatori comunque siano, se saranno eletti o non eletti, questo ancora non si sa, ma non avranno non saranno eletti, perché è già passato anche quell'emendamento lì, poi naturalmente tutto deve passare alla Camera. Non c'è l'indennità. Poi sono stati votati anche altri articoli del DDL Boschi, DDL, l'articolo 5, l'articolo 3 sui senatori a nomina del Colle, e va bene, insomma, quindi il dato è che insomma aveva ragione Renzi, sembra che ce la faccia entro l'8 agosto ad approvare questa riforma, per qualcuno una porcata, per Renzi per esempio sentiamolo, un fatto straordinario che i senatori stiano approvando la eliminazione del Senato. Ma vi rendete conto che ci sono dei senatori che sono dei senatori straordinari, che stanno facendo mezzanotte tutte le sere, prendendosi anche talvolta degli insulti come è accaduto in queste ore, che stanno difendendo il superamento del Senato come lo conosciamo adesso? Qual è l'immagine più bella di un paese che non ha paura dei corporativismi come questa di questi senatori? Io non la vedo un'immagine più bella di questi senatori qua. Questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Beh, su tutto aleggia naturalmente, come sempre, il patto del Nazareno. Ci sarà un altro incontro, lo ha confermato oggi il capogruppo di Forza Italia al Senato Romani, tra Berlusconi e Renzi. Molti chiedono spiegazioni sulla presunta clausola antiprodi del patto del Nazareno, cioè il fatto che in nessun modo nella prossima discussione sulla elezione del futuro Presidente della Repubblica Berlusconi avrebbe chiesto garanzia a Renzi che non ci sia di mezzo il nome di Prodi. Prodi, intervistato al Fatto Quotidiano l'altro giorno a mezze parole, ha detto non commento, ho visto questa cosa, come no, ma non commento. Sentiamo invece chi commenta la situazione, ed è Beppe Grillo che parla naturalmente di una dittatura in atto e poi minaccia anche lui di andarsene. Se alle prossime elezioni non prendiamo voti, allora vorrei dire che ho sbagliato tutto io, l'avevo già detto altre volte. Grillo, un Grillo quindi insicuro, me ne vado, dice, sentiamo. Qui non si tratta di eliminare il Senato, si tratta di mettere dei senatori nominati dagli stessi partiti. Se la vedi a pezzi non ti accorgi, sembrano riforme. Se vedi il quadro generale, il mosaico generale, è dittatura schietta. Andiamo alle elezioni, verifichiamo se veramente questo 40% del 50% degli aventi diritto vota di nuovo così, e se vota così io dirò avete ragione voi, ho sbagliato tutta la mia vita. Ho sbagliato tutta la mia vita. Non è la prima volta che Grillo dice questo. Se alle prossime elezioni non prendiamo i voti, credo l'avesse detto anche prima delle europee. Poi di voti ne ha presi un po' meno di prima, ma non così pochi evidentemente da indurlo ad abbandonare tutto, ad abbandonare la sua creatura, il Movimento 5 Stelle. È molto grillino anche Augusto Minzolini, che lo sapete è uno dei dissidenti di Forza Italia per quanto riguarda questa riforma del Senato, e dice una riforma che è il simbolo stesso della casta. Io quello che ho paura non tanto dei buffi, ho paura degli illusionisti e degli incapaci. E quello che noi stiamo mettendo insieme è esattamente questo. Quando mi dici, noi ha fatto un'intera campagna su questa legge dicendo questa è la legge contro la casta, ma questo è il simbolo della casta, questa legge. Cioè il nominato diventa quasi il metro con cui tu scegli la classe dirigente. Stasera, il sabato 2 agosto, una terribile calamità che sconvolge per la sua violenza ed imprevedibilità ha colpito la comunità di Refrontolo in provincia di Treviso. Le acque del torrente Lierza si sono di colpo trasformate in una valanga d'acqua impetuosa e devastante che ha travolto macchine, alberi, rocce e vite umane, causando la morte di 4 persone: Luciano Stella, Giannino Breda, Maurizio Lott e Fabrizio Bortolini, e il ferimento di altre 8. Il ripetersi di sciagure, tra le cui cause, oltre alla violenza della natura, può annoverarsi anche il dissesto idrogeologico, ripropone ancora una volta con forza l'ineludibilità di un ulteriore e concreto impegno di tutte le istituzioni finalizzato alla salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Soccorsi oltre 400 uomini impegnati, e questa mattina poi alla luce del sole, alla luce, abbiamo visto che si tratta di un piccolo vaiont, di una situazione impensabile dove 4 persone hanno perso la vita, 6 persone sono ferite, delle quali un paio in rianimazione, ma soprattutto la devastazione che questa bomba d'acqua ha creato. E con tutto il rispetto naturalmente per le vittime di Refrontolo, la vera frittata che è stata fatta in questi anni in Italia, diciamolo chiaramente, è quello proprio della mancata cura del territorio, volete dire della cementificazione, diciamolo, sicuramente in questo caso la cementificazione non c'entra, forse c'entrano, come dice qualcuno oggi sui giornali, avere trasformato dei boschi in vigneti, boschi che rallentano la caduta dell'acqua, e noi ci siamo documentati anche col professor Casagli e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, che sta studiando un algoritmo per la prevenzione delle frane e queste cose le conosce, ci ha detto proprio questo, come no, nonostante quello che dice Zaia, invece trasformare i boschi in vigneti non va bene, così come non va bene fare la sagra a 2 passi dal letto del fiume, così come non va bene avere fatto il patto di stabilità che blocca i fondi per i comuni che non fanno più la manutenzione ordinaria del territorio, fiumi, fossi, boschi, letti dei fiumi, rigagnoli, tutte queste cose piccole che di anno in anno si sommano e che alla fine però sono una concausa, è inutile negarcelo, importantissima di quello che purtroppo continua a succedere. Ma sentiamolo Zaia. È stata l'occasione per riparlare della tragedia di Refrontolo, di tutto quello che corrisponde alla verità e di tutto quello che non c'entra nulla con questa tragedia, tipo le polemiche sulle devastazioni, l'opera dell'uomo, che proprio, mi permetta di dirlo, in questo caso non c'entrano nulla. È vero che a volte si ruba bosco, in alcuni casi a favore dei vigneti, ma dico che dove c'è un vigneto c'è un presidio di un agricoltore a differenza di un bosco abbandonato. La verità è che sono colline moreniche sempre in continuo movimento. E non è vero, Zaia, non è vero, non è che dove c'è un agricoltore c'è un presidio, dove c'è un vigneto c'è un agricoltore che preside, ci sarà anche il presidio, però è scientifico, ci siamo documentati il fatto che se togli i boschi che rallentano la caduta dell'acqua e metti le vigne senza i rigagnoli, senza gli scolmatoi, quello che ci vuole, l'acqua va giù più velocemente. Poi che sia la causa della tragedia, questo non lo so io, non lo sa forse nessuno, ma che non c'entri nulla questo mi sembra difficile che si possa sostenere. Il tema del dissesto idrogeologico oggi deve essere affrontato con più energia, la possibilità di investire, la possibilità di non avere patti di stabilità, la possibilità di fare quelle azioni che vorremmo fare e magari investendo un po' di più, ma ci vorrebbe un piano Marshall nazionale che oggi non c'è. Verissimo, verissimo, io per quanto conti poco o nulla concordo pienamente, per averlo sentito dire anche da altri esperti di Legambiente, di tutti quelli che si occupano di queste cose, ci vorrebbe un piano Marshall, cioè un piano di investimenti massicci sul territorio che darebbe anche lavoro, occupazione sicuramente, e eviterebbe probabilmente che accadano ancora delle tragedie come questa, quantomeno ne diminuirebbe o ne attenuerebbe sicuramente anche le conseguenze. Abbiamo convocato Erasmo D'Angelis, che è... Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Che è capo della struttura di Palazzo Chigi, che si occupa del dissesto idrogeologico Italia Sicura. D'Angelis, prima di tutto, vabbè, lei è in carica insomma non da molto, però si sarà fatto un'idea anche di questa ennesima tragedia. Colpa della natura, una fatalità imprevedibile, un vaiont, come dice Zaia, anche se poi abbiamo scoperto che anche nel vaiont c'erano state cause imprevedibilissime. Ecco. La tragedia del vaiont è stata appunto, diciamo, una tragedia denunciata e purtroppo è avvenuta nonostante le denunce. Oppure pensiamo, a maggior ragione pensiamo, anche in questo caso si tratta di qualcosa che ha a che fare con quello che il Corriere oggi chiama gli assalti al territorio. Ma non lo so, ora insomma ci sono delle indagini anche in corso, la stessa Protezione Civile è molto cauta, nel senso bisogna avere chiaro un quadro. E certo siamo insomma in un'area che già dove già è esploso questo torrente nel mese di febbraio e insomma è tutto il reticolo intorno all'Ivenza, ma così come il Bacchiglione, cioè il Veneto come la gran parte delle regioni italiane ha fiumi pronti ad esplodere con appunto queste piogge che anch'esse sono a carattere esplosivo perché sì, in pochissimo tempo la famosa bomba d'acqua. Su territori molto localizzati arrivano queste piogge che tra l'altro diciamo noi dobbiamo mettere anche un po' a regime il sistema dell'allerta, dell'allarme meteo, perché insomma siamo di fronte a grandi rischi, siamo forse il paese europeo più a rischio per quanto riguarda i cambiamenti climatici, quindi dobbiamo correre ai ripari, saperci difendere e avviare appunto questa politica di prevenzione per la quale è nata questa struttura di missione, perché questa è la novità del governo Renzi. Adesso ci arriviamo a questo, vedremo, sì, però, sì. Insomma, no, è importante dire anche quello che si vuole investire, che si vuole fare, certo, sicuramente, però restiamo per un attimo ancora su Refrontolo, perché noi ci siamo anche un po' documentati, l'ho già detto, col professor Casagli del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università, certo, di Firenze, che sta, lei lo conoscerà, certo, probabilmente, mettendo, certo, appunto un algoritmo per prevenire tra l'altro le frane. Una cosa che lui ci ha detto è stata anche questa: fare la sagra nelle vicinanze del letto di un fiume, per quanto un rigagnolo, anche questo è un'abitudine italiana di fare le cose già a rischio, anche questo è un comportamento sbagliato. Assolutamente sì, ma guarda, la prima prevenzione è la pianificazione urbanistica e la manutenzione del territorio. Io insomma mi onoro di aver fatto una cosa, cioè di aver contribuito in Toscana a mettere in sicurezza e quindi diciamo a rendere inedificabile con vincoli molto rigorosi quasi il 12% del territorio regionale. Non è stata una passeggiata, perché c'è stato uno scontro molto vero, duro, con poteri forti, deboli, meno forti sul territorio, però alla fine per legge è l'unica regione che ha vincolato una, fetta molto ampia di territorio, togliendoli a un po', insomma, all'edilizia, alle costruzioni, alle edificazioni. Questo è giusto, tra l'altro questo si capisce bene come la cementificazione sia nemica dell'assorbimento dell'acqua, ma il discorso diciamo questa è un'emergenza vera, perché ancora oggi noi vediamo, ad esempio in Campania si riaprono termini addirittura dei vecchi condoni edilizi degli anni 80 e 90, significa 300-400 mila domande diciamo entro tutto l'arco del 2015, poi diciamo stiamo attenti, perché questi sono i messaggi sbagliati che non bisogna dare. Questa è una legge regionale appena approvata dal Consiglio regionale della Campania venerdì scorso, che riapre i termini di alcuni vecchi condoni. Ne parliamo anche magari di questo, perché anche questo è un segnale nella zona rossa, tra l'altro, del Vesuvio. Sì, è un segnale assolutamente sbagliato. Non possiamo da un lato iniziare a muoverci verso la prevenzione, quindi con un piano molto serio, e dall'altro aprire delle falle nelle zone, in una regione poi dove c'è il 20% dell'abusivismo nazionale, quindi su zone assolutamente suturate a rischio, e continuiamo, insomma, a proporre sanatorie, francamente si resta un po' allibiti. Il governo potrebbe opporsi a questa legge regionale della Campania? Questo poi vedrà il Consiglio dei Ministri e... Ma lei da parte sua, come capo, lo suggerirebbe a Renzi di opporsi a questa legge? Sì, certo, come no. Suggerirei a Renzi, come al Presidente della Regione, di pensarci bene, cioè di tornarci su e di eliminare almeno questa parte del maxi emendamento votato in Consiglio regionale. Quindi il prossimo Consiglio dei Ministri, secondo lei, potrebbe affrontare questa cosa? No. Intanto deve riaffrontarla, secondo me, il Consiglio regionale della Campania. Ma l'hanno appena votata, quindi non so se... Lo so, però l'hanno votata con diversi... Però è vero che il governo può opporsi a certe leggi regionali, no? Quindi il Consiglio dei Ministri... Certe leggi sì, se vanno contro ovviamente le leggi dello Stato sì. Sì. Qui diciamo siamo su una materia dove lavoreranno molto diciamo i giuristi e i legislativi, però... Siamo di fronte all'ennesimo avviso del clima che sta cambiando e di cosa può succedere, e in una regione ad alto rischio come la Campania invece si allargano un po' le maglie dell'edilizia. Sì, si consente di ristrutturare delle case che sarebbero abusive, invece di incentivare, come è stato fatto precedentemente, e poi con risultati e esiti diciamo non sempre ottimali, il fatto di andarsene di lì, si dice no, ristrutturate le case, state lì. Adesso però non parliamo solo della Campania, perché il danno è avvenuto in Veneto. Questa questione dei vigneti e dei boschi, lei... Ma noi siamo di fronte, almeno dal dopoguerra ad oggi, al raddoppio dei boschi, che è senz'altro diciamo, un fatto positivo, che aumenta il verde nel nostro paese, però io sono nel mezzo, nel senso che aumentano i boschi ma è crollata la manutenzione nei boschi, quindi facciamo attenzione, aumenta il bosco selvaggio dove non c'è più manutenzione dei reticoli idraulici. Quindi ha ragione l'acqua. Zaia quando dice che un terreno agricolo è presidio di un agricoltore. Un terreno agricolo sicuramente è un presidio degli agricoltori, certo se si disbosca in maniera eccessiva no, però diciamo sicuramente un terreno agricolo poi dove ci sono i vigneti di un vino eccellente, eccezionale, è un'eccellenza italiana, sicuramente c'è una forte manutenzione anche dei reticoli idraulici, quindi insomma non si taglia con l'accetta questo tema, bisogna verificare zona per zona davvero quali sono le cause di un'alluvione, di un'esplosione, di un torrente. Sì, beh, certo non si può generalizzare. Senta, a proposito di Sblocca Italia però, anche lì diciamo le fonti che abbiamo consultato in qualche modo ci hanno detto va bene, è un bel segnale, si investe sul territorio, però sono progetti magari vecchi di 20 anni fa che rischiano di arrivare tardi, di non essere più centrati sul territorio, il territorio che avrebbe bisogno anziché di grandi opere di piccola manutenzione, e quella non si fa. Non sono progetti di 20 anni fa, perché noi diciamo, abbiamo chiesto a tutte le regioni, abbiamo fatto in questi 2 mesi il giro delle regioni, abbiamo chiesto alle regioni la riprogrammazione degli interventi entro il 30 settembre, quindi tutti i progetti saranno aggiornati al 30 di settembre per riprogrammarli con accordi di programma nuovi. Questo cosa significa? Significa mettere in pista, al momento abbiamo un elenco di 3.400 interventi ed opere, che sono gli interventi richiesti dal 2009 ad oggi, a seguito di eventi disastrosi da tutte le regioni. Quindi siamo a 3.400 piccoli, medi interventi, non si tratta di grandi. Ci sono alcuni grandi interventi come che appunto purtroppo sono bloccati da troppi anni, come ad esempio l'opera principale sul Bisagno a Genova, che salverebbe Genova, il principale lotto, uno scolmatore per 45 milioni, che è una grande opera, è bloccata da 3 anni. Perché è bloccata? Ricorsi al TAR. Dopo la gara ha vinto un consorzio, è stato fatto un ricorso e diciamo con le norme che abbiamo oggi sugli appalti e che stanno finalmente cambiando, nel senso anche se ci sarà un ricorso al TAR, l'opera inizia, poi magari si pagheranno delle penali se il TAR o qualche giudice. Però non si blocca tutto. Esatto, però il lavoro non si può bloccare, perché quelle sono opere che salvano vite umane, ma così come abbiamo opere bloccate ad esempio in una zona ad altissimo rischio come sul Sarno, diciamo il grande progetto Sarno, dove ci sono numerose opere di laminazione, casse di espansione che sono anche bloccate da ricorsi al TAR, così come sul Seveso che è esploso 3 volte dentro Milano negli ultimi però D'Angelis, è vero che i comuni hanno il problema del patto di stabilità anche per quanto riguarda interventi di questo tipo di emergenza, cioè che veramente non si fa più quella piccola non manutenzione su tutto, però non su tutto, perché il patto di stabilità è anche un po' un alibi, nel senso che noi abbiamo trovato spulciando negli ultimi 15 anni di bilanci statali e regionali, sì, 2.300 milioni non spesi, circa il 40% effettivamente è bloccato dal patto di stabilità, però il patto di stabilità non è poco, però è un patto di stabilità che funziona un po' a fisarmonica, no? Regione per regione, nel senso poi ogni regione decide di diciamo inserire queste opere completamente nel patto di stabilità, come ha fatto la Campania o la Calabria, e non spende nulla, oppure di toglierle perché sono una priorità, come ha fatto la Puglia, come ha fatto l'Emilia Romagna, come ha fatto in parte la Toscana, la Lombardia, cioè ci sono regioni che hanno considerato queste opere come prioritarie e le hanno tolte nel loro bilancio dal patto di stabilità. Quindi è una decisione che spetta alle regioni. È una decisione che spetta anche alle regioni, non soltanto allo Stato. In ogni caso il governo e Renzi si sono impegnati in sede europea a togliere completamente i vincoli del patto su queste opere di messa in sicurezza e sull'edilizia scolastica. Quindi diciamo secondo me ce la faremo e quindi avremo a disposizione tutte queste risorse. Però l'altro 50%, 60% di risorse, eppure sono tantissime, ed è quelle che stiamo intanto sbloccando, sono incagliate per motivi diversi, di procedure burocratiche veramente. Sì, vabbè, l'eterna storia italiana. Senta, D'Angelis, perché non fate. Sì, no, no, non mi permetto di diciamo dare suggerimenti al governo, però. Dato che di annunci ne sentiamo parecchi, ne abbiamo sentiti a milioni, perché non fate uno di questi siti? Non fate un sito nel quale si aggiornano di volta in volta le opere che vengono fatte? Così uno va lì e dice: finalmente è stato fatto. Esatto, ma insomma questa sarà la sorpresa di settembre, nel senso che noi abbiamo lavorato intanto, allora lo Stato in questa materia aveva 6 monitoraggi diversi, vari ministeri, le strutture di controllo sui lavori pubblici, ISPRA, insomma ognuno faceva il suo monitoraggio, non tornava un numero, noi abbiamo fatto diciamo un grande lavoro di unificare i monitoraggi, ne avremo uno su un geoportale quando apriremo il sito all'inizio di settembre, italiasicura.it, ci sarà un sito con tutte le opere, tutti gli interventi e con tutti gli stadi d'avanzamento. Speriamo, verremo a controllare sicuramente. No, ma siamo convinti che diciamo anche la partecipazione dei cittadini a questa gigantesca opera pubblica che stiamo mettendo in piedi. Eh sì, ma di monitoraggi ce ne sono a centinaia, D'Angelis. Il problema è di fare lavori poi, io credo. Vabbè. Ce ne sarà uno per. Sì, però il controllo è importante, il controllo dei cittadini, perché nel frattempo noi abbiamo fatto una doppia operazione, cioè qui su queste opere non ci sono né annunci né promesse. Ci mette la faccia il governo, ci mettono la faccia tutti i presidenti di regione che da un mese sono commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, per cui va sono bene. Abbastanza individuabili, quindi insomma vedremo. Stanno cambiando un po' di cose. Speriamo, Italia Sicura, speriamo che diventi una realtà. Grazie intanto a Erasmo D'Angelis. Grazie a voi. Per queste spiegazioni, diciamo a caldo anche di una tragedia, quindi è difficile poi dare responsabilità, addentrarsi, dare risposte nette, certe. Si può fare. Si può fare. L'attualità anche d'estate. 800 24 00 24, tra poco cominciamo a sentire gli interventi degli ascoltatori. Se invece volete interagire in tempo reale con noi, ci trovate su Twitter, l'account del programma è @ si può fare 24, mio @ Ale Maurizi. Allora andiamo con Francesco che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera. Prego. Volevo intervenire quanto riguarda il servizio della pedonalizzazione che stanno facendo a Roma. A Piazza di Spagna, sì. Non solo a Piazza di Spagna, Imperiali. Circondario Fori Imperiali, Piazza Venezia, tutto l'entorno è diventato un disastro, Ma non perché sono molto futurista sulle cose, a me piace vedere le cose fatte bene, che siano belle e che siano funzionali soprattutto. Poi parlo da tassista, che per noi lavorare adesso l'intorno è diventato una cosa deleteria. In genere i tassisti, quando c'è un po' di penalizzazione, sono contrari, perché diciamo siete spesso favorevoli, mi scusi, perché diventate poi più determinanti, no? Se fa ricorso a voi. Invece lei è contrario. Non le piace? No, dico, no, spesso la penalizzazione vi trova favorevoli perché siete, diciamo, diventate più indispensabili per portare la gente. Siamo sfavorevoli per il semplice fatto noi perché? Dove stanno pedonalizzando, specialmente su Piazza di Spagna, noi abbiamo molti alberghi, sì. Ci sono molte abitazioni, ci sono persone. Ma voi non potete andare lì, non potete andare neanche in tassi. No. Ah, ecco, voi siete è interdetto anche per voi. È interdetto. Pedonalizzazione totale in questo caso. Totale. E questo è quello che si vocifera per inizio di Piazza di Spagna. Il babbuino ora non chiusa perché stanno facendo i lavori di manutenzione sul manto stradale e va bene. Però si vociferà il fatto che Piazza di Spagna sarà non ci sono ancora passato, la vogliono proprio chiudere e renderla pedonabile. Il problema è gli alberghi, i turisti, come ce li porti dentro con i bagagli? Le persone anziane che vanno all'interno, come ce le porti? Via dei Serpenti, che per noi era uno snodo allucinante per attraversare la città, ce l'hanno chiusa in un verso, l'abbiamo soltanto a scendere. Via del Colosseo. Va bene che ci sono i pedoni e i fori impiegati. È troppo grande Piazza di Spagna per poterci andare a piedi lasciando le persone al margini? Lei immagina un po' una famiglia con quattro bagagli e quando le persone viaggiano si portano casa appresso. Poi un po' immaginarlo sui San Pietrini, come la vede? Non lo so, sì, con i San Pietrini, i bagagli, quattro persone, i bambini. Ci sono tanti alberghi a Piazza di Spagna? Piazza di Spagna è pupilla di alberghi e sono poi nei vicoli. Okay. Va bene, grazie Francesco per questa spiegazione, intanto diciamo dalla voce del tassista romano. Andiamo con Stefano che ci chiama da Venezia. Buonasera. Buonasera, chiamo da Mugine di Piave. Sì. Provincia di Venezia. Io volevo portare alla luce, appunto, visti i fatti di questi giorni, purtroppo, che c'è un ramo del Piave, detto Piave Vecchio, che è stato dimenticato un po' da tutti gli addetti ai lavori. Nel senso che poi si parla sempre di queste cose, di dissesto idrogeologico, quando poi ci sono delle disgrazie, purtroppo. E questo praticamente è il fiume dove si combatte la guerra e tutte queste cose qua. E si sta chiudendo da diversi anni, però non si vedono sopralluoghi, non si vede nessuno che si interessa. Proprio si sta chiudendo a un rigagnolo. Per cui, e siccome è anche una zona in cui adesso stanno procedendo alla pista ciclabile con i fondi europei, no? E più c'è anche il turismo il cosiddetto turismo ittico, country ittico, cioè una zona molto bella, molto tenuta a livello proprio di agrituristica. Proprio, cioè, sì, ma è, diciamo, qual è il senso del suo intervento, Stefano, però, in relazione a quello che è accaduto a Refronto? Che, diciamo che non ci sono manutenzione, non c'è manutenzione da parte del consorzio, di nessuno. Cioè il fiume è proprio rimasto lì, si sta chiudendo. Quindi il problema è della manutenzione, anche quella magari piccola, ordinaria, tagliare le erbacce, gli arbusti e quant'altro. Diciamo che una volta c'erano i cosiddetti frontisti, i contadini, che tenevano pulito perché avevano le stalle, il bestiame. Adesso questo non c'è più e per cui diciamo va tutto, c'è molto più abbandono. Certo, i comuni avrebbero dovuto in questi anni sicuramente riorganizzarsi, perché a fronte del cambiamento epocale di abbandono di gran parte delle terre e anche, come diceva D'Angelis, di aumento delle parti boschive, proprio perché si coltiva di meno, non è che le puoi lasciare andare alla malora. Questo sicuramente è un problema. Sentivo anche prima che parlavano che ci sono abbastanza fondi disponibili e bloccati da certi vincoli. Sì. Speriamo li sblocchino e riescano anche a utilizzarli per cose anche non tanto costose come questa, anziché fare opere faraoniche come il Mose, che poi abbiamo visto. Benissimo, grazie Stefano, grazie, buona serata. Tina, abbiamo prima Roberto da Roma, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Allora, per quanto riguarda la pedonalizzazione, sono contrario, come l'intervento di prima del tassista che ha elencato tutte le varie problematiche. Io dico solo una cosa, prima di tutto che per fare il sindaco a Roma non è una questione di territorialità o di campanilismo, bisogna averci vissuto e non basta venire da una bellissima regione come la Liguria e dire appunto che questa città ha bisogno di questo e di quest'altro. Lo sappiamo noi di cosa ha bisogno questa città. Di infrastrutture, ha bisogno di servizi pubblici adeguati, non basta chiudere il centro storico e poi affacciarsi da una bella terrazza magari e dire quanto è bella Roma, quello lo sappiamo da solo, senza che nessuno venga a dircelo da fuori, prima di tutto. Secondo, credo che appunto, come dicevo, se non si intensificano i servizi pubblici è solamente un qualche cosa di inutile, anche perché, e finisco il mio intervento, sì. Chi è stato mai a Colle Oppio, i romani lo sanno bene, è come entrare nel labirinto, non lo so, a Creta, serve il filo di Arianna, perché se vuoi andare da qualche parte devi ripassare per la stazione dei Termini e magari andare dall'altra parte. Non ho capito però questa cosa su Colle Oppio, perché sarà che non bazzico Roma, però stiamo parlando di Piazza di Spagna. Sì, ha ragione, perché io per quanto riguarda Piazza di Spagna ha già detto questa cosa con le Oppio, che cos'è? I Fori Imperiali, che è un quartiere sopra i Fori Imperiali, chiamato insomma o Rione Monti o insomma tutto ciò che è intorno al Colosseo. Quindi? Che se tu sbagli strada praticamente sei costretto a passare per il raccordo anulare per tornare dalla cioè strada. Lei lamenta l'assenza, diciamo, di indicazioni stradali chiare. No, di indicazioni stradali, no. di sensi unici, di sensi unici, in modo che uno debba girare intorno. Questa però è una cosa che c'è in tutte le città. Grazie Roberto, grazie, buona serata. Avevamo detto Tina da Milano, eccola qua, buonasera. Pronto? Sì. Buonasera. Prego. Allora, ecco, in attesa di andare in vacanza mi sto arrabbiando. Ecco. E così parte già male però, eh? No, ma insomma, ecco, ascolti, ma sempre per parlare del dissesto idrogeologico, eccetera. Allora, dicevo alla segretaria, alla ragazza che mi ha preso la telefonata, noi siamo in zona, abbiamo il Ticino, allora sono anni, lo vedo anche da me ovviamente, perché passando, andando verso Novara eccetera, lo vedi che è bloccato da tronchi, da albero, cioè è pieno di robe inutili. Allora sono anni e anni, i nostri vecchi, i nostri anziani eccetera, i pensionati, allora andavano al Ticino, tiravano su un po' di legnetti, lo usavano magari per il camino. Ecco, da quando è entrato sotto il parco del Ticino non si può più toccare una foglia, è verdi, è verdi, è il parco del Ticino, niente, non si può più. Tutti lo dicono, sono anni. anni che andiamo avanti così e non succede mai nulla. Ora io mi chiedo se la regione e poi prendendo ogni comune, perché non mettersi d'accordo e ritornare a dare un permesso eccetera, così sarebbe quasi a costo zero la pulizia, non dico a costo zero ma almeno al 50%. Cioè lei dice questi vincoli su un'area protetta, certo, il Ticino, fanno sì che non si può più toccare nulla. Ma Zai ha ragione, cioè, non credo proprio che sia soltanto per quello. Sono addirittura oggi, c'è un'altra cosa, hanno fatto vedere il filmato dell'Ambro a Milano, che sono entrati con una telecamera e addirittura hanno scoperto che è pieno di tronchi d'albero, addirittura ci sono dei masi, quindi il problema maggiore sono proprio il problema che non vengono puliti questi disastrati fiumi e torrenti. Va bene Tina, è sicuramente vedere il Ticino, è una roba infame, noi ci andiamo a volte in passeggiata, pieno di tronchi d'albero, ma dovesse venire una piena, insomma, e nessuno fa. Ma lei si ricorda di quando dice, i nostri anziani, i nostri vecchi facevano, prendevano la legna, certo, manutenzione. Anche perché, mi scusi, ora vede, nei nostri supermercati, lì, ipermercati qui della zona, ci sono le catasse di legna, sta tornando di moda la legna vista la crisi del camino, per cui potrebbe essere un incentivo. Inoltre mi risulta che c'è un imprenditore, credo di Omegna nel Novarese, che d'accordo anche col sindaco, gli operai in cassa integrazione li manda in giro per il paese. Sì, va bene, Tina, grazie, questo non c'entra molto, è un caso che non c'entra molto, è la Alessi di Omegna, azienda di design che invece di cassa integrare i suoi dipendenti li paga e li fa lavorare per il comune, ma è purtroppo una mosca bianca, come si suol dire. Cristiano da Bologna, buonasera. Buonasera. Pronto? Sì, prego. No, volevo dire due cose. Allora, la prima, allora, quando succede qualche cosa, una volta a Modena è colpa delle talpe, adesso lì diventa colpa dei vigneti. Allora, io sono nel ramo proprio vitivinicolo. Allora, innanzitutto dove ci sono dei vigneti sono tutti perfetti e non c'è dubbio che venga giù, certo, lì dalla terra succedono delle cose lì, perciò questo è da eliminare completamente da quello che avete detto. No, proprio... guardi però io mi sono informato prima di fare la trasmissione e mi è stato detto che il bosco rallenta la caduta dell'acqua, non che la impedisce, la può rallentare, anzi la rallenta. Allora, questo non vuol dire che bisogna vivere solo in mezzo ai boschi, è chiaro, questo è chiaro. Mi scusi, guardi, adesso rispetto a anni fa, lei va a vedere, c'è più boschi, come diceva la signora. Sì, questo è vero, non in quella zona lì, guarda caso, però in generale è vero, questo è vero. Sì, ma è chiaro che non è quella solo la causa, è ovvio, la causa abbiamo detto, la mancata manutenzione e quant'altro, però non si può neanche pensare di buttare giù i boschi e far qualcos'altro in zone così a go-go, senza pensare che poi ci siano delle ripercussioni, questo neanche si può fare, io credo, poi... questo è quello che mi è stato detto anche da chi se ne occupa. Dimmi quante cose tu sai fare. Dimmi quante cose tu sai fare. Io so costruire siti internet, conosco il linguaggio HTML. Lavoro molto bene su Photoshop, Illustrator, InDesign, di quelli che tu hai. Parlo molto bene l'italiano, lo so scrivere, scrivo molto bene in italiano. Conosco molte lingue, l'inglese, il francese, lo spagnolo, il messicano, l'americano, parlo anche un po' di russo. Sono bravo anche distrutto, sono l'unico che regge i tuoi ritmi. Ma ho come l'impressione che non basti mai. E ho come l'impressione che non basti mai. E ho come l'impressione che tu non mi pagherai. Sì, magari assumerai, però non mi pagherai. E ho come l'impressione che tu non mi pagherai. Sì, magari assumerai, però non mi pagherai. Però non mi pagherai, però non mi pagherai, però non mi pagherai. Michele Spellucci, violoncellista freelance. Buonasera, ben ritrovato, Michele. Buonasera, grazie per il tipo. Allora, qualche sera fa, credo fosse giovedì, ci eravamo sentiti. Riepilogo brevissimamente per chi non fosse stato all'ascolto in quel momento. Ci avevi parlato di un bando del Ministero dei Beni Culturali per animare le serate nei musei dopo una certa ora con la musica dei giovani, eccetera. eccetera eccetera, un bando che poi tu avevi, volevi rispondere, avevi, però in fondo avevi visto in una postilla che c'era scritto sì però gratis, e tu a questo gratis ti eri ribellato, hai scritto una lettera, ne è nata una polemica. E che cosa è successo poi nel weekend? Dunque, io tra l'altro ringrazio voi perché dopo la nostra chiacchierata c'è stata una reazione immediata, per cui ve ne do anche una fetta di merito se posso. E noi ce la prendiamo questa fettina, esatto, certo. Giustamente. No, il ministro mi ha contattato personalmente sul mio profilo Facebook e poi ha pubblicato anche sulla sua pagina ufficiale una lettera di risposta a quella che gli avevo inviato io. Hai avuto paura per un attimo quando hai visto il ministro che scriveva sulla tua pagina Facebook? Non è da tutti avere un ministro. Basta, sì, per carità, sì, una bella soddisfazione, però credo sia un uomo come tutti gli altri. Sì, tutto sì, sto scherzando. No, ci mancherebbe. No, comunque il ministro è stato veramente cortesissimo, diciamo, ha fatto un po', come dire, pubblica ammenda scrivendo che diciamo lui ha ripreso questo bando dal suo predecessore e siccome nella precedente edizione non c'erano stati sollevamenti, lo ha ripubblicato ritenendolo valido. E poi cioè in qualche modo se ne è lavato le mani. Si è tolto la responsabilità, ha detto non è un'idea mia. Esatto, in soldoni è un po' stata questa l'affermazione e poi ha ribadito il suo schieramento a favore del riconoscimento delle arti come mestiere, per cui diciamo dicendo che lui ne sta facendo una battaglia e di questo gliene devo dare atto, insomma sta facendo delle cose in questa direzione condivisibili e per cui ha concluso dicendo che il bando è stato ritirato, per cui non solo dalla pagina del MIBACT a questo punto è proprio stato ritirato, non si accettano più candidature. Perché noi ci eravamo lasciati che il bando era stato, diciamo, era in qualche modo sparito dal sito, però poi si era scoperto che in realtà era ancora attivo, quindi c'era già stato un movimento. Adesso il bando è stato proprio ritirato, parola di Franceschini. Sì, per te una specie di, come dire, di consacrazione di questa tua battaglia, anche di vittoria o no? Anche se devo dire io stento un po' a vederla come mia vittoria personale sinceramente, perché sì, io in realtà non ho fatto altro che scrivere una lettera fuori dai denti e pubblicarla sul profilo Facebook, poi in realtà è diventata quasi una battaglia di categoria, nel senso che a questa lettera hanno fatto eco veramente tutti coloro che si occupano di arte in qualsiasi settore. Ti posso dire però, Michele, non ti farà piacere, che per l'eco che hai avuto, per il sostegno che ti è stato dato, quella sera lì in trasmissione abbiamo avuto anche delle telefonate di chi invece sostenevano, molti, ma qualcuno, che no, i giovani creativi devono lavorare gratis in queste occasioni per avere visibilità e poi vendere i loro prodotti. Sì, io ho sentito l'intervento che stai citando, tra l'altro grazie per aver difeso estremamente, perché veramente ce n'era bisogno, ma sì, cioè, c'è un discorso da fare. Allora, prima di tutto non vorrei che noi artisti adesso passassimo per i giovani figli di papà che battono i piedi perché vogliono la paghetta, non è questo il discorso. Il discorso è che fin quando si fa arte per hobby, il discorso che faceva il signore, insomma i discorsi che si possono fare in questa direzione possono anche essere diciamo accettabili. Nel momento in cui l'arte diventa una professione, come può essere nel mio caso, io sono stato membro dell'Orchestra Nazionale della RAI, per cui non è proprio tanto un hobby a questo punto, a quel punto si è necessario riconoscere una dignità a questa professione, a quel punto ci deve essere un'adeguata remunerazione. Poi è logico che se ci sono giovani che vogliono farsi curriculum possono decidere tranquillamente di lavorare gratis. L'ho fatto io migliaia di volte quando ho cominciato la carriera musicale, perché è giusto, cioè di palcoscenico c'è bisogno di esperienza, per cui perché no, ben venga qualsiasi occasione per esprimersi. Sì. Però c'è un passo successivo. No, anche perché diciamo che se si tratta di animare le serate dei musei, le notte dei musei, dove la gente entra pagando un biglietto d'ingresso, e allora se si fanno più ingressi anche grazie all'intrattenimento musicale, io questo è quello che ho detto l'altra sera, lo ridico anche adesso, è ovvio che è giusto che chi lavora quella serata lì abbia la sua parte del guadagno, altrimenti uno che fa la figura del fesso, che lavora solo per il museo, e questo non va bene. Tra l'altro, lasciami dare anche questa notizia, sì, gratis musei, però Franceschini è felice e dice domenica una giornata bellissima di festa, ieri 200.000 visitatori nella giornata dei musei gratis. Ora è chiaro che funzionano quando sono gratis, però un po' funzionano, mi sembra di capire, anche quando si paga il biglietto, e quindi sulla pagina ufficiale di Franceschini è stato pubblicato, sono stati pubblicati i dati del risultato delle, dei venerdì al museo, per cui degli ingressi serali, sì. Diciamo, lui ufficialmente ha detto che dal 1 luglio, quando è entrata in vigore, sì, questa riforma, c'è stato 1 milione di euro in più di introito rispetto ai mesi precedenti. Ora non so se perché sia periodo estivo, per cui c'è più giro turistico, non so se però sia c'è proprio sta. Ed è esattamente questo che intendiamo quando diciamo che con la cultura si può mangiare, cioè si possono produrre utili per chi ci lavora. E allora Franceschini si è accorto che quel bando lì non poteva funzionare. Certo però che io non ho capito se gli è sfuggito di mano questa cosa e lui era inconsapevole, diciamo, che ci fosse una richiesta di lavoro gratis. Allora però è comunque grave che un ministro non si accorga di una cosa del genere, oppure se pensava, diciamo, che passasse sotto silenzio. Tu cosa hai capito? Ma diciamo, io la risposta che ho scritto immediatamente al ministro diceva esattamente questo: se il ministero non se n'è accorto è un fatto grave, perché credo che chiunque di noi, quando scrive qualcosa, lo rilegga almeno 3 o 4 volte prima di metterlo, diciamo, a fruizione pubblica. Per cui un ministero che non si accorge che un bando che emette va contro i principi che sta decantando da mesi, c'è evidentemente qualcosa che non va alla base, evidentemente. Ora, è sempre questo detto anche al ministro: il fatto che precedentemente nessuno si sia ribellato, questo non avalla automaticamente la validità di un bando emesso. Insomma, cioè, credo che fosse compito loro riprendere il documento, leggere che cosa ci fosse scritto e vedere se andava incontro alle linee di governo di questo ministero. A questo punto ti aspetti anche che esca fuori qualcos'altro con fondi per i giovani artisti che animeranno le notti dei musei? Ma diciamo che io purtroppo, avendo 1000 impegni, non posso dedicare tantissimo tempo a queste cose, però insieme ad alcuni amici, diciamo, ho lanciato un po' la richiesta come si potrebbe fare questo bando in maniera differente, e alcuni amici della sovrintendenza, che lavorano in sovrintendenza, mi hanno detto perché il ministro non dice: ok, si pagano 10 euro di biglietto, 2,50 euro, 3 euro li destiniamo a finanziare le esibizioni artistiche. Ok, quindi una proposta anche più trasparente da questo punto di vista. Vedremo, e in bocca al lupo anche per questa altra proposta. Grazie a Michele Spellucci per essere stato con noi. Grazie. Grazie mille a voi, arrivederci. A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale, la frittata è fatta. Tra guastatori e giudici d'assalto, tra sceneggiate e indici d'ascolto, praticamente la frittata è fatta. Vai, Sam. In attesa della relatrice, il gruppo Movimento 5 Stelle conferma che questa porcata di riforma non merita la partecipazione. Vabbè, il linguaggio non è quello adatto, poi la vostra valutazione era nota. Il linguaggio, come è stato fatto presente dalla Presidenza, vabbè. 7 articoli in solo 2 ore, poi il dibattito sull'immunità dei nuovi senatori. E questo è il ritmo dei lavori con il quale l'Aula del Senato sta lavorando a proposito della riforma costituzionale. Una porcata, secondo le parole del senatore Petrocelli del Movimento 5 Stelle, redarguito da Gasparri oggi, che dice: non sono queste le parole da usare, ma tant'è. Sentiamo un'altra senatrice, sempre del Movimento 5 Stelle, che ribadisce la strategia adottata dal Pentastellati, quella di non partecipare ai lavori d'aula, così come fatto anche dalla Lega. Il Movimento non ci sta, quindi ha abbandonato l'aula solo per quanto riguarda la legge di riforma costituzionale. Non ha intenzione di spedire qui in Senato la classe più mediocre della politica, quella più corrotta, addirittura dando loro l'immunità. Temo che Renzi voglia far saltare tutto il prima possibile, perché si rende conto che non sta riuscendo a mantenere una sola delle sue promesse, a partire dagli 80 euro. La situazione economica è drammatica, questi non sanno come uscirne, quindi secondo me vorrà farla vittima e far saltare tutto. Ma vi rendete conto che ci sono dei senatori, che sono dei senatori straordinari, che stanno facendo mezzanotte tutte le sere, prendendosi anche talvolta degli insulti, come è accaduto in queste ore, che stanno difendendo il superamento del Senato come lo conosciamo adesso? Qual è l'immagine più bella di un paese che non ha paura dei corporativismi come questa di questi senatori. Io non la vedo un'immagine più bella di questi senatori qua. È il concetto dei capponi a Natale evocato a suo tempo da Berlusconi quando si parlava di riforme appunto del Parlamento. Non possiamo chiedere ai capponi di anticipare il Natale, diceva Berlusconi. Adesso Renzi con lo stesso concetto dice: ma è straordinario che ci siano i senatori che stanno eliminando il Senato. In settimana nuovo incontro sull'Italicum, probabilmente questa volta sulla legge elettorale, ma insomma sul nodo delle riforme, tra Renzi e Berlusconi. Per Grillo però è solo uno scambio di interessi. Berlusconi sta lottando fino allo spasimo per le sue aziende, non per il paese, questo lo capisce anche un bambino. Di per sé deve avere delle garanzie per le sue aziende, che Renzi gli dà con Rai Way o altre cose, e in contraccambio appoggerà tutte le riforme in Parlamento. Restano però i dubbi, ovviamente. Abbiamo sentito prima Minzolini, uno dei dissidenti di Forza Italia, adesso sentiamo dentro il Partito Democratico la fronda che non accenna, diciamo, a non essere più fronda, e questa volta Corradino Mineo, sentiamo. Non si può continuare a raccontare ai media verità di comodo, capisci? Dissidenti chi? Chi sono questi dissidenti incappucciati? E poi altra notizia di giornata riguarda il caso Tavecchio. Oggi riunione della Lega Pro, avete sentito anche dal giornale radio, Tavecchio in cassa. Non è chiaro a dir la verità, perché c'è una dichiarazione di Macalli che però non è chiaro se è la sintesi della giornata per quanto riguarda la riunione della Lega Pro, perché questa dichiarazione è stata fatta a margine dell'assemblea dei 60 club di categoria riuniti oggi a Firenze, ma tant'è, insomma, strada un pochino più in discesa per Tavecchio oggi, sentiamo. L'assassinio di John Kennedy non ha subito quello che ha subito il sottoscritto, ma questo rientra nelle umane cose in un paese che sicuramente ha bisogno di non avere obiettivi che sono di non accoglienza. On the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto la luna ancor di più. Quando fuori flexi Superman, senza fare love non si può stare. Oh baby. Beach, on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, di occhi neri e di occhi blu. Quante signorine very nice, uscire pazzo tutti i boys. Ce l'abbiamo Diana Gallo della cooperativa Alba di Pisa, stabilimento balneare Big Fish a Marina. Sì, eccomi, buonasera. Eccola, buonasera. Eccola qua. Facci sentire il rumore del mare o del vento. No, non si può. Non si può. Ma aspetta, sei, ma se si sente. Qualcosa si è. Ma sei in riva al mare, insomma, al mare, sì. Sente? Sì, sono al mare, qui sono davanti agli ombrelloni. C'è un gruppo di signori che sorseggiano un bellissimo aperitivo, c'è una sessione di yoga della risata e quindi di alcuni Ecco, amici. Questo sarebbe interessante se ti avvicini col telefono per sentire qualche risata, perché questa sicuramente è più sonora dell'effetto mare. Diana Gallo della cooperativa Alba, l'abbiamo già conosciuta, chi ha sentito Si può fare altre volte forse se la ricorda, una cooperativa che si occupa del disagio psichico, ma non solo, e si occupa soprattutto di dare anche un lavoro, una possibilità professionale, uno sbocco, perché proprio attraverso l'occupazione si cerca anche di innescare un percorso di uscita da questi problemi delle persone che hanno a che fare con tutto questo. E lo stabilimento balneare Big Fish è proprio questo, cioè ci lavora, quanta gente ci lavora, Diana? Senti, qui in tutto ci siamo in una trentina, 40 persone tra chi è assunto e chi è volontario attivo, e poi ci sono tanti ex utenti della non mi parlare di volontari, perché abbiamo già una polemica con il violoncellista che Franceschini, il ministro, voleva far lavorare gratis ai musei, e poi è successo tutto un casino, una lettera, la risposta, quindi non voglio sentir parlare di volontariato, parliamo solo di gente pagata, perché sennò apriamo un'altra polemica. Diana Gallo, Big Fish. Io ti dico la parte bella invece. Brava. Perché c'è anche un volontariato sano, un volontariato consapevole, certo. Persone che hanno voglia di essere solidali, e l'Italia c'è ancora una parte di queste persone qui, poche, ma noi le aggreghiamo, e grazie al volontariato siamo riusciti a fare anche l'impresa, perché l'anno scorso abbiamo rimesso in piedi un bagno e tanta gente ci ha lavorato gratis, però ci ha lavorato perché ha creduto nel bene comune. Avete vinto un bando del comune regolare. Non pensino gli ascoltatori che ci sono corsie preferenziali perché c'è il disagio, per qua, quella. No, avete vinto un bando in mezzo a tante altre, diciamo, persone che potevano partecipare, cooperative, aziende, chi voleva. Quello è un bando regolare, sì, insieme ad altre cooperative, insieme ad altre aziende del territorio, e ora ovviamente si sta cercando di fare l'affidamento diretto, oppure insomma di vedere se il comune ci riconosce, perché con tutto gli investimenti che ci abbiamo fatto l'anno scorso era assegnato per 2 anni, e ovviamente se si continua a gestire per i prossimi 20 anni, fare un bagno ancora più bello di come siamo riusciti a fare, che ora è molto gradevole, è bello, la gente ci fa complimenti per come l'abbiamo ristrutturato, per i pesciolini che ci sono alle cabine, abbiamo tolto l'amianto, abbiamo fatto tanti lavori. Ecco, questa è una cosa importante da dire, tra l'altro, avete tolto l'amianto, perché purtroppo, mi duole dirlo, ma io conosco quella zona perché, diciamo, sono anche originario di quella zona lì, anche se con Diana Gallo tra l'altro non ci siamo neanche mai visti personalmente, ma prima o poi verrò a trovarvi. Ci sono molti stabilimenti balneari lì, ma anche in altre parti d'Italia, che hanno ancora le onduline d'amianto sopra le cabine. Voi le avete tolti? Purtroppo sì, non le abbiamo tolti, è un lavoro che deve essere fatto dalla ditta specializzata, e sul litorale di Marina ci sono altri bagni che hanno ancora l'amianto, invece sia fuori legge andrebbe levato, e questa è una cosa che in Italia c'è, in tante parti ancora c'è. Oh, intanto oggi c'è il sole però. Oggi c'è il sole, anche se è stato un luglio piuttosto altalenante e un po' difficile, insomma, come stagione, è stato un luglio un po' particolare, ma nonostante questo si è lavorato perché le persone si sono aggregate a livello sociale, stanno bene, vengano qui anche per la natura speciale del bagno, che è quello proprio della relazione. Ecco, questo è interessante, perché ci saranno sicuramente dei pregiudizi rispetto al fatto di vado allo stabilimento balneare dove ci lavorano i matti e qualcuno che dice, ma sei sicuro? Ma chi te lo fa fare? Vai in un posto normale. E poi ci sono questi pregiudizi? No, diciamo ci sono, dipende da come... noi non li sentiamo qui, cioè, ci sono, fuori ci sono, però le persone che vengono qui hanno già una sensibilità speciale, e quando arrivano noi li sensibilizziamo, e quelli che poi non entrano, diciamo, nel mondo della relazione umana se ne vanno e non tornano, le pazienze. Perché magari, ci sarà anche invece al contrario della curiosità, cioè mi fai vedere cosa succede lì, qualcosa di speciale, magari poi si instaurano anche delle relazioni inattese, proprio perché la situazione è inattesa e emotivamente anche forse coinvolgente per chi in qualche modo ha avuto contatti anche con questo. Che ne pensi? Coinvolgente, ci sono familiari di pazienti, ci sono persone che hanno fatto dei percorsi importanti di anni e che riescano comunque a lavorare, a essere qui e a fare del loro meglio nella vita, a ricostruirsi una dignità quantomeno rispetto a un'identità patologica, si costruisce un'identità sana, un'identità dove si può divertirci, dove c'è di stare insieme, dove c'è la voglia di pescare la sera. C'ho qui con me Carmine, che poi dopo ti passo e ti racconto cosa ha fatto, come si è trasformato. Chi è Carmine? Cosa ha fatto? Carmine è un ragazzo che ha vissuto tanti anni in strutture, purtroppo per delle patologie che aveva, appena si è conosciuto abbiamo iniziato questo lavoro di reinserimento sociale e anche, diciamo, di abitativo, perché c'è il nostro gruppo appartamento, e lui viene qua, dà una mano, riesce, pulisce un po' la spiaggia, mette a posto i cestini, e la sera si fa delle grandi pescate, pesca sempre le orate, i gronghi. Ah, meraviglioso. Passaci subito Carmine, allora, se è possibile, al telefono. Vediamo un po' se... Te lo passo, aspetta che passa l'aereo. Proprio in questo momento, un collegamento, una tragedia, cioè telefono che passa, l'aereo sopra. Carmine... Sì. Te lo passo subito. Sì. Ciao. Carmine. Pronto? Eccolo qua, Carmine. Ciao, buonasera. Buonasera. Siamo molto contenti di parlare con voi. Diana ci ha spiegato tutto quello che fate, è bellissimo, lo yoga della risata, le attività sulla spiaggia. Tu ti occupi di tenere pulito un po' sulla spiaggia? Sì, sì, faccio lavoretti, svuoto cassonetti, svuoto, faccio un po' di tutto. Il bagno lo fai ogni tanto? Sì. Oggi fra l'altro c'era il sole, era una bella giornata probabilmente, quindi una delle poche in questi ultimi tempi. Carmine? Sì? Ti piace fare il bagno o no? Sì? Insomma, non particolarmente. Senti, ma quanti siete a lavorare? Lì ci diceva Diana, una trentina di persone. Sì, tra camerieri, bagnini, ceramisti, un po' di tutto. Ma la gente che viene ti guarda in modo particolare, sapendo che vieni da un servizio del disagio mentale, servizi del Dipartimento di Salute Mentale, oppure c'è un clima di allegria e la gente se ne frega di questi pregiudizi? No, è un normale, come tutti i giorni. Danno un buongiorno, buonasera, tranquilli, ci si ferma a parlare. Tu da quanto tempo sei con la cooperativa a fare questi lavori, Carmine? Sono 3 o 4 anni. Ok, senti, mi ripassi Diana un attimo, è possibile? Sì. Che poi dobbiamo salutarci, in bocca al lupo, grazie, buon lavoro. Ho vinto un massaggio da spiaggia. Hai vinto il massaggio da spiaggia? Come l'hai vinto? Sì. E come hai fatto a vincerlo? Con una sfilata. Ah, è vero, me l'avevano detto, hai vinto, sei il tipo da spiaggia. Sì. Ma c'è stata una votazione regolare oppure se te lo sei, diciamo, detto da solo? No, sei stato votato. Va bene, hai vinto un massaggio, complimenti. Fra l'altro, complimenti soprattutto perché tenere pulita la spiaggia è fondamentale. Diana, ci sei? Sì, un minuto. Eccola, la salutiamo. Eccola. Eccomi, intimidita. Sento un po' di rumori intorno. Sento la sessione di yoga della risata, vuoi sentirla? Sì. Questa è gente che ride, voi penserete che sono matti, ma in realtà non sono solo matti, fanno anche queste cose qua. Li sentiamo. Tutti ridono, che è una cosa meravigliosa. È yoga della risata, la sessione divertente, sì, di yoga della risata, che serve per alleggerire, per rilassare, per insomma trovare un modo di ironizzare un po' sulla vita. Ci sono questi percorsi, facciamo anche mindfulness, facciamo... Cos'è che fate anche mai? Mindfulness sarebbero pratica della consapevolezza, ci si mette seduti sulla spiaggia, si fa una sessione di respirazione, c'è un counselor mindfulness che fa... Sì. Ma scusa Diana, si può venire anche a non fare nulla sulla tua spiaggia o bisogna per forza fare qualcosa? No, si può anche non fare nulla, farsi il bagno e stare per conto proprio. Ecco, tranquillo. Sì, diamine, ci mancherebbe. Diciamo che noi offriamo delle attività perché sono divertenti, piacevoli, fanno stare bene. Poi se uno non vuole partecipare non è che... Certo. Vabbè, insomma, noi il messaggio che volevamo dare intanto è che, come dice il programma, si può fare, cioè si può avere un lavoro, si può avere un'occupazione, si può avere un percorso di reinserimento anche se si viene da un percorso di disagio mentale, e grazie al lavoro non solo vostro ma anche di tante altre cooperative e associazioni come l'Alba di Pisa, questo è un bel esempio. Big Fish, grazie Diana Gallo, buona serata, ci risentiamo forse nel corso di quest'estate, chi lo sa. Certo, grazie mille a voi. Arrivederci. Ciao, un abbraccio. Ciao. Eccoci qua, 19:33 minuti, 800 24 00 24. Riprendiamo con gli interventi degli ascoltatori, con Roberto che ci chiama da Roma. Buonasera. Sì, buonasera. Favorevole o contrario? Roberto? Alla privatizzazione di Piazza di Spagna, immagino. Sì. Sì, no, assolutamente favorevole, anzi ci si chiede com'era possibile che prima la piazza fosse attraversata da veicoli. Sì, quindi lei è favorevole perché secondo lei è la norma che debba essere così, era sbagliato prima, perché era sbagliato che i veicoli attraversassero? Anzitutto va notato che la disciplina era già questa. Io le premetto, sono un animatore di un'associazione di residenti del rione qui della zona. Bisogna dirlo, si qualifichi, certo. Sì, no. E diciamo, bisogna dire che essenzialmente la disciplina era già quella che oggi è stata fatta rispettare. La cosa rivoluzionaria di oggi è che sono state fatte rispettare delle norme che già esistevano, e la piazza, diciamo, è una piazza normale adesso, una piazza in base di pedoni che non devono... Però ha sentito il tassista che diceva: come si fa a far andare i visitatori, cioè frequentatori degli alberghi, con le valigie in mano sui San Pietrini, magari devono fare 20-30 metri, questo è un problema o no? No, a nostro avviso no, perché voi non ci andate all'albergo, dice lei, chi se ne frega. No, ovviamente no. No, se la pedonalizzazione riguarda un'area circoscritta come è la Piazza di Spagna, non può essere uno scandalo per nessuno fare dei brevi tratti a piedi. Gli alberghi, che tra l'altro in genere sono alberghi, cioè sono strutture di un certo livello, possono attrezzarsi per diciamo portare i bagagli dei loro ospiti. Non è uno scandalo per nessuno. Magari con dei veicoli elettrici futuristi. Grazie Roberto, perché no, è un'idea. Sergio da Padova, buonasera. Buonasera. Niente, due osservazioni. Una riguarda le bombe d'acqua. Cioè, il territorio italiano è un territorio tutto a rischio idrogeologico, quindi dove casca, casca. Queste bombe sono come i fulmini. A un certo punto è inutile cercare il colpevole, quando è una situazione di una quantità d'acqua enorme che cade in uno spazio di tempo brevissimo, quindi è inutile dare la colpa a questo o a quest'altro, perché sennò dovremmo bonificare tutto il territorio italiano. Non so se riesco a esprimere il concetto. Oggi capita in un posto, domani in un altro, e in ognuno si dirà: ma è colpa di questo, ma è colpa Scusi Sergio, le dico quello che mi è stato detto quando oggi pomeriggio, preparando la trasmissione, ho parlato anche con un esperto di questa materia. Le bombe d'acqua sono abbastanza, stanno aumentando di frequenza, cioè capita abbastanza spesso, non è che capita una volta ogni 1000 anni, quindi non è sbagliato pensare, non dico di prevederle o di prevenirle, però di metterle nel conto, questo sì. E quindi qualcosa bisogna pur fare, non è che si può stare lì e dire tanto succede. Trovare il colpevole ogni volta è una cosa ridicola, perché ogni volta ci sarà sicuramente dei colpevoli, perché con un territorio come quello si sarebbe potuto fissare chissà che cosa. Io credo che la caccia al colpevole non porti da nessuna parte in ogni caso. Certo, lo stimolo sì, ma dover per forza trovare un colpevole quando viene giù una valanga d'acqua impossibile come quantità nello spazio di tempo, questo è come uno tsunami. Mica darai la colpa quando viene uno tsunami a dire: ma perché non avete fatto delle difese in una spiaggia? Cioè, sono eventi assolutamente fuori dalla portata umana. E questa era la mia opinione. La seconda è molto semplice, molto molto rapida. Cioè, in qualsiasi paese dove c'è una democrazia, quando diciamo tu fai parte di un gruppo, anche se tu non sei d'accordo, alla fine dici: non sono d'accordo ma mi adeguo. Ecco, questa è l'anomalia italiana. Ognuno vuole fare i cavoli propri, ognuno vuole dire i suoi distinguo, eccetera. Ma su questo, assolutamente, specialmente quando si tratta, come in questo caso nel Senato, di dare un segno preciso agli italiani, di dire che qualcosa la politica fa cambiare, assolutamente deleterio l'atteggiamento di chi fa ostruzionismo, di chi fa specialmente fine a se stesso, perché 8.000 e passa, diciamo, emendamenti che c'erano, chiaramente sono semplicemente un qualche cosa per distruggere. Sono d'accordo con lei su una cosa, che non è serio fare 8.000 emendamenti, tra cui quello per dare il nome al Senato Duma o bischerate del genere, e poi parlare di porcata per quanto riguarda la legge elettorale. Cioè, o fai l'opposizione seriamente e allora puoi parlare di porcata, oppure se sei tu a fare un'opposizione un po' scriteriata e tra l'altro non molto efficace, perché comunque questi emendamenti sono caduti tutti. Non sto dicendo che non sia legittimo fare ostruzione o fare opposizione, ma che ci sia contraddizione in questo atteggiamento, secondo me c'è. Do ragione a lei, Sergio. Voleva finire? Io credo semplicemente, veramente, che insomma il popolo è anche in questo momento, credo che gran parte dell'Italia sia per vedere che può cambiare il Senato. Il Senato di per sé è importante, ma non è la cosa fondamentale, è un concetto banale. Ormai la gente vuol vedere che si può cambiare qualche cosa e anche riacquistare la fiducia, perché effettivamente se cominciano a cambiare queste cose si ripristina un po' di fiducia e magari la gente comincia anche un po' di nuovo a spendere, perché sennò siamo sempre fermi e cristallizzati a questi distinguo, e addirittura che nello stesso partito ci siano quelli che si smarcano, io lo trovo una cosa veramente che è contro ogni logica della democrazia, perché sembra logico invece in un gruppo, se viene stabilita una cosa tutti si devono adeguare, e questa è una logica di gruppo, se no siamo i soliti individualisti esasperati. Grazie, ecco, Sergio, buona serata. Grazie. Renato da Sondrio, buonasera. Ah, buonasera, io abito a un chilometro dalla Svizzera e c'è una differenza rispetto a quello che ha detto l'ascoltatore precedente. La bomba d'acqua in Italia fa disastri, in Svizzera no, perché io sono un frequentatore, diciamo, assiduo del territorio elvetico, perché sì, vado anche oggi sono andato per funghi da loro e quant'altro, no? Quindi oltre alle strade vado. Ce l'aveva in Svizzera a far funghi? Perché ci sono, sì, di qualità migliore. No, i funghi ce ne sono dappertutto, viva Dio, anche in Italia, e in questo momento ce ne sono diversi, io oggi ne ho preso diversi chili. Comunque, al di là di questo, lì ci sono tutte le strade regimentate con le scogli delle gronde, delle strade, praticamente il territorio praticamente è manuteso, difatti c'è una politica di intervento sul territorio. Pensi che tutti i valtellinesi, ma tutti gli italiani che vanno a lavorare, tutti anche per la comunità europea, non solamente gli italiani, che vanno a lavorare in Svizzera, pagano praticamente un quid mensile che praticamente va per la manutenzione del territorio, è una piccola tassa che ci troviamo praticamente nello stipendio e va praticamente al comune. Sì. Il bosco bisogna praticamente coltivarlo. Nasce, vive e muore. Praticamente una pianta, non so, l'abete, eccetera, dopo 30-40 anni praticamente se lo lascia in piedi marcisce, a questo punto casca e va praticamente a toppare le vallette. Guarda, io ho sempre fatto praticamente, i miei avevano un'azienda agricola, no? E una volta i boschi venivano proprio puliti nelle vallette, eccetera, eccetera. Invece adesso le piante praticamente le lasciano in piedi, marciscono, vanno a cadere nelle vallette, viene a piovere, fanno l'effetto diga e praticamente parte praticamente dei disastri. In Svizzera invece c'è praticamente una politica della Confederazione che viene poi trasmessa al cantone e poi praticamente al comune, e ogni tot anni fanno il taglio, chiaramente settore per settore, poi fanno il ripianto. Questo dà occupazione, capisce? Certo, perché a questo punto c'è la filiera del bosco, nel senso che praticamente io facciamo la piantagione, poi praticamente la coltivazione, poi il taglio, il legno buono, si fanno i mobili eccetera, il legno meno buono vanno a finire praticamente nel teleriscaldamento. Noi a Tirano abbiamo il teleriscaldamento, no? Che serve tutta la cittadina. Lei lo sa dove vanno a comprare praticamente il cipato? All'estero, addirittura nei paesi dell'est. Sì, perché spesso magari da noi ci sono regolamenti, cose, no, per cui non si può. No, noi abbiamo i boschi in piedi che marciscono, cadono, sì, e abbiamo praticamente un effetto devastante sul territorio. Renato, però mi tolga... mi lasci finire. A un chilometro da casa mia, sì, lì veramente c'è la cultura del bosco, no? Praticamente sfruttano il bosco. Lei a quanti chilometri sta dalla Svizzera? Io un chilometro. Ah, ecco, quindi lei praticamente è di casa in Svizzera e quindi queste cose le vede davvero da vicino. Senta, però ci deve dire a questo punto come sono questi funghi, perché sono buoni? Guardi, allora veramente adesso c'è stata una luna veramente favolosa. Io veramente, perché i funghi dipendono dalla luna? Sì, almeno a me mio nonno mi ha sempre detto che dipende dalla luna, quindi adesso la luna si era fatta, quindi di conseguenza io guardi, vado moltissimo, faccio mountain bike, no? Sì. E vado dopo come secondo, sono impressionato, come secondo, e solitamente vado nel Mortirolo, anche il famoso Mortirolo. Ma la frontiera non le controllano i funghi che ha preso, no? Ma guardi, io entro dal bosco italiano, passo quello svizzero, sì, non so più neanche dove passi veramente il confine, perché sì, c'è il cibo ogni tanto, c'è il cibo. Cosa, e poi il cibo? La dogana. Bisogna stare attenti. Cioè, no, ma non ho capito, se lei passa la dogana, cioè la frontiera con i funghi. No, ma io ho una casa anche in montagna, che praticamente è lì a 100 metri dal confine, però è su a 1800. Ah, quindi lei esce dalla casa che c'è in montagna ed è in Svizzera praticamente, quindi non le può dire niente a nessuno. Questa mattina vado a cogliere in Svizzera o vado a cogliere in Italia? Devo stare attento, ah, però. Sì. Che in Italia, che in Svizzera bisogna andare nei giorni senza R, cioè non il martedì, il mercoledì, bisogna andare il lunedì, il giovedì, il sabato, la domenica. A far funghi stiamo parlando. Bisogna solamente prenderne 3 chili. Scusi, stiamo parlando di andare a far funghi, non si può andare di martedì a far funghi in Svizzera? Sì, allora adesso non so se hanno cambiato, comunque ormai io viaggio, sì, ancora, ma penso che sia ancora così, col giorno dell'R, la giorno settimanale dell'R, non si può andare dentro. E poi bisogna quantitativi, perché se c'è il polizai che ogni tanto il passa, polizai. No? Non è che passa, eh? No, mi fa ridere che è la guardia di confine. Si chiama così proprio? Polizai, sì, sì. C'è il polizai. Noi l'abbiamo sempre chiamato polizai. Noi siamo veramente, noi valtellinesi così vicini, siamo, eravamo svizzeri fino al 1600 e poi purtroppo quando Napoleone ci ha portato in Italia ci ha fatto una disgrazia. Tutta colpa di Napoleone, però lei non si lamenti, perché comunque lei è lì a un passo, fa quello che gli pare, va, torna, comunque, entra dentro col funghi. È un'altra quindi... cosa che devo correggere. Però i funghi sono buoni, insomma, c'è stata la luna, i funghi sono buoni, quindi guardi, tutti devono andare a far funghi io adesso. Come tutti i ricordi, cioè, a me non piacciono molto i funghi. E perché va a fare funghi, scusi, se non le piacciono? Perché mi piace coglierli, voglio regalo. Sì, saranno contenti i suoi amici che lei gli regala. Sì, ma adesso ne ho... Ne mandi una confezione, non so, anche qua a Radio 24, siamo comunque, in tanti. Comunque, senta una cosa, un'altra cosa. Io che praticamente assolutamente non sono assolutamente un leghista, devo dare ragione a Zaia. Sì, attenzione. Ma non è una malattia, lo può dirlo tranquillamente, sì. No, è stata lì purtroppo una delusione pazzesca la Lega, come è stata una delusione pazzesca Grillo, no? Il problema grosso, che la vigna di per sé è veramente mantiene il territorio, perché se io faccio una vigna, io ho le vigne, no? Mio nonno, mio padre aveva le vigne. Ma lei io che lavoro faceva prima di andare in pensione? No, io praticamente sono quel gruppo che ho studiato, no? E quindi di conseguenza sono andato all'università e quindi ho rotto la catena, purtroppo. In che senso, scusi, ha rotto? Cioè, lei avevate le terre, lei parla per metafore straordinarie, avevate le terre, traduco io, avevate le terre e poi lei è andata all'università, ha interrotto questa tradizione di famiglia, esatto. E adesso le terre sono incolte. E le terre sono andate incolte. La vigna, quando avevamo la vigna, no? Sì. C'era il mio padre, mio nonno, che stava lì, perché tu non puoi fare una vigna senza aver rigimentato l'acqua. Anche quei verdi lì cosa parlano? E anche quel signore che parlava prima al ministero, ma io pensavo che veramente il Renzi mettesse gente competente, ma anche lui. Però guardi, un conto sono, diciamo, gli scolmatori, i fossati che si fanno intorno alle zone coltivate, anche le vigne. Un conto è un bosco che ha una capacità, così mi è stato detto, di trattenere per un tempo maggiore l'acqua, non che la assorba di più o di meno, ma rallenta, diciamo, la... Bisogna capire se è un bosco cedro, eccetera, eccetera, se abete, se l'arce, eccetera, eccetera, perché la ramificazione è diversa. Il problema vero, perché se il bosco tu lo lasci lì e lo fai marcire in piedi... Sì, vabbè, questo è già stato detto, Renato, questo è già stato detto. Comunque, grazie, complimenti, ci ha fatto venire fame, sicuramente, per questa storia dei funghi, continui così. Ma lei poi che lavoro faceva prima di andare in pensione? Questo non c'è, ha rotto la catena, ma cosa faceva? Io facevo l'ingegnere elettronico. Senta una cosa, l'ultima cosa che voglio dire, ma a questo punto il Renzi, io gli ho messo lì ad esempio un esempio classico di fare una politica del territorio, la filiera del bosco, e mi va a fare la cosa lì del Senato che non interessa niente a nessuno. Cominci con questo, con questi interventi che portano soldi, vada a rivedere praticamente la politica sul fisco, va all'evasione, faccia una patrimoniale come c'è anche in Svizzera. E invece noi stiamo lì a ragionare su queste baggianate che non frega niente. Va bene, Renato, ci piaceva di più la parte sui funghi e sulla manutenzione del territorio, di cui lei è sicuramente un grande esperto. Grazie per essere stato con noi, buona serata. Adesso invece, come anticipato, andiamo a Roma per giudicare la pedonalizzazione di Piazza di Spagna. Sappiamo che, secondo un sondaggio della Confcommercio, una percentuale non bassissima, insomma, forse addirittura la maggioranza dei commercianti della zona interessata a questa pedonalizzazione sarebbe favorevole per una volta tanto, perché spesso invece i commercianti, spesso e volentieri, hanno delle perplessità. Però noi ne parliamo con chi invece ancora oggi è tornato, diciamo, a chiedere a Marino di fare un passo indietro su questa storia di Piazza di Spagna chiusa. Abbiamo convocato David Sermoneta, che è consigliere dell'associazione Piazza di Spagna. Intanto, buonasera. Buonasera. Nonché titolare, credo, di un negozio in Piazza di Spagna. Sì. Il negozio, diciamolo, vai. Alexander. Negozio che è? Cosa vendete? Abbigliamento da donna dal 1966. Roba alte firme o roba anche normale? Casual chic, lo definiamo noi. Casual chic. Quanto costa una camicetta lì da voi? La camicetta può andare da 200 euro in su. Ah, alla faccia del casual chic. Insomma, siamo a Piazza di Spagna. Ci rivolgiamo a una clientela molto alta. Giustamente, perché siete in una piazza straordinaria da questo punto di vista. Esatto. Più mi sembra critiche che elogi per questa iniziativa di Marino da parte sua. Ma noi siamo molto critici, non tanto per il discorso della pedolanizzazione in sé per sé, ma quanto perché vengono tagliati tutta una serie di servizi ai turisti. Lei si immagini che uno di questi nostri clienti, che sono russi, arabi, giapponesi, cinesi, così, che arrivano in Piazza di Spagna e per accedere al loro hotel vengono scaricati ai margini della piazza e poi devono portarsi tutti i bagagli fino all'albergo. Questo qua è una delle problematiche, così come... Però un ascoltatore poco fa ci ha chiamato dicendo si tratta di alberghi di un certo livello, perché non si organizzano con un trasporto, con qualche piccolo veicolo elettrico o anche semplicemente con un carrellino? Sarebbe possibile, secondo lei, ovviare a questa... Ammesso che per il resto sia un progetto, diciamo, valido, Ma guardi, tutto è possibile. L'importante è che tutto questo dovrà essere fatto, tutte queste iniziative secondo noi dovrebbero essere concertate con gli operatori del settore. Ma voi non siete stati sentiti, invitati a discutere? Guardi, io faccio attività associativa da molto molto tempo. Sì. Veniamo costantemente invitati, ma fondamentalmente sono tutti inviti di facciata per far vedere che c'è una concertazione, ma in realtà è stato già tutto deciso. Cioè sono incontri, diciamo, inutili dal suo punto di vista. Ma è vero questa... è vera questa... dunque, è una... di quando è? Di febbraio, però, qua parliamo, quindi del progetto. C'è un Roma Capitale che riporta sul tempo, che riporta questo dato. Il 62% dei commercianti del Tridente sarebbe favorevole al progetto di pedonalizzazione lanciato da Marino. Questo è il risultato del sondaggio effettuato da Confcommercio Roma. Benissimo. Allora, risulta? No, non lo so, glielo chiedo. No, non ci risulta, no. Anche perché un'altra cosa che dobbiamo dire è che noi non ci sentiamo assolutamente rappresentati né da Confcommercio né da Confesercenti. Sì. Questa è la verità, perché fondamentalmente sono delle entità, è un pochino come il discorso dei sindacati. Io vorrei sapere oggi chi si sente più rappresentato dai sindacati, vista la situazione, la nostra crisi economica, la crisi del lavoro, la disoccupazione, tutte queste associazioni di categoria. Vorrei sapere chiedere cosa avete fatto, quali sono i risultati che avete prodotto, perché alla luce... Ma questo è più una cosa forse interna vostra, diciamo. Quello che mi interessava sapere è se qual è il polso un po' dei commercianti della zona rispetto a questa questione. Il polso è completamente negativo. Io tutti i miei colleghi, come dicevo, io sono qui dal 66, non ce n'è uno che è favorevole, anche perché poi noi c'è un altro grosso problema che noi viviamo a Piazza di Spagna, perché sembra che con la pedonalizzazione abbiamo risolto tutti i problemi. Noi siamo in balia della microcriminalità, dei venditori abusivi. Infatti, tra l'altro, poi ci sono i taxi con tutte le loro adesivi, che ho scritto Roma capitale dell'abusivismo. Qui a Piazza di Spagna si vende di tutto e di più. Ma ci sono, perché anche qualche sera fa c'è stata un'aggressione forse ai danni di qualche turista parte... Quella lì sì, quelle là sono le ciliegine sulla torta, insomma, l'altra sera che sono stati aggrediti due americani, ossia quello. Poi ci sono, a noi viene chiesto di avere la licenza, di battere gli scontrini, di essere in regola con le norme sul lavoro, e qui invece tutta questa gente non emette scontrino, non ha licenza per vendere, E il bello è che tutte queste cose vengono espletate sotto gli occhi dei vigili, dei carabinieri, della polizia. Cioè, nessuno interviene per far rispettare le ordinanze. Vero è che non mi faccia difendere gli abusivi, però credo che vendano delle cose che non hanno nulla a che fare col suo commercio, cioè cosettine da un euro, due euro. Poi che siano illegali, che non so, ci debba essere una forma di controllo, di rispetto alla legalità, siamo d'accordo. Però non è una questione di concorrenza. Secondo me è una questione di decoro. Di decoro, certo. Che è un concetto completamente diverso, perché se questo devo dire che se vai a Place, come si chiama, la Concorde a Parigi, non è che ci sono gli ambulanti, effettivamente. No, io sono appena tornato da Londra e sinceramente tutto questo non l'ho visto. Anche perché poi questo è fonte di illegalità, perché sono tutte ossia, noi stiamo parlando, facendo una politica, stiamo cercando di rilanciare un paese. Nel momento in cui lo rilanciamo, noi per esempio non è che vogliamo i soldi dalle banche, noi vogliamo essere in condizione di poter espletare il nostro lavoro, noi vogliamo che il cliente venga accolto, ma qui non c'è più accoglienza, soprattutto per un certo tipo di cliente. Comunque, insomma, tornando a Piazza di Spagna, il progetto non vi piace, è da oggi che è iniziata, no, la pedonalizzazione, o adesso ci sono dei lavori, non ho capito, perché non essendo di Roma... Non scattava da oggi la pedonalizzazione? È scattata da oggi. Da oggi. Quindi voi siete, diciamo, rimanete contrari, anche se ovviamente i turisti già vanno a piedi per conto loro, quindi probabilmente per i turisti non cambia molto, se non per questa cosa degli alberghi. Ma vede, quando parliamo di turisti bisogna capire un attimo anche che genere di turisti, sì, perché ormai qui siamo invasi da turisti dell'acqua minerale. Il turista, quello di livello, quello che alimenta gli alberghi a 5 stelle, quello che li alimenta le boutique, le firme, tutto quanto, quello là sta scomparendo. Ma sta scomparendo per via della zona pedonale? No, non, ossia la zona pedonale praticamente è diventata terra di nessuno. E questo quello che Per voi è sinonimo di incuria questa terra pedonale, di abbandono, ci sono gli abusivi, noi non ci siamo. Noi viviamo in una zona di abbandono, completamente abbandonati dall'autorità. Questo è il vero problema nostro. Poi sì, possiamo farla pure l'isola pedonale, la studiamo, la concertiamo insieme, diamo modo agli alberghi di organizzare, come ha detto lei prima, il servizio per il cliente, ossia si può organizzare, ma fondamentalmente non è una cosa studiata a monte. Va bene, staremo a vedere, insomma non è l'ultimo progetto che Marino ha in cantiere per la città, a proposito di zone chiuse alle macchine, però insomma... Gli altri progetti sono stati devastanti per il commercio, perché... Cioè tipo nella zona dei Fori Imperiali ci sono dei negozi che hanno devastante. Hanno chiuso dei negozi? Sì, hanno chiuso e hanno avuto degli abbattimenti del giro d'affari di oltre il 50%. Va bene, certo, mi faccia dire una cosa, non è che si può valutare le politiche di mobilità in una città solo sulla base del fatturato dei negozi, però sicuramente bisogna mettere tutto sul piatto della bilancia e di questi tempi... Mi perdoni, no, e di cui mi faccia finire la frase, e di questi tempi, le do ragione, non è comunque una buona notizia di abbattere il fatturato e far chiudere i negozi, sicuramente. Io capisco la viabilità, comunque sì, noi siamo quelli che partecipiamo al PIL. Sì, sì. In un momento di crisi come questo, vedere delle aziende... Ma ripeto, non credo che si debbano mettere sui piatti della bilancia i negozi chiusi e la mobilità, cioè bisogna consentire tutto, i negozi aperti e la mobilità nuova, diversa, pubblica, alternativa, tutto quello che volete, sì, però senza far chiudere i negozi, sono d'accordo. Nel rispetto delle attività esistenti. Certo. Va bene, grazie, buona serata. L'associazione Piazza di Spagna, questa è la situazione a Roma, almeno nelle parole di uno dei commercianti di un negozio di prestigio della Piazza di Spagna. Allora, con gli ascoltatori riprendiamo, abbiamo Daniele che ci chiama dalla provincia di Verbania, buonasera. Buonasera. Eccoci qua, prego. Niente, un piccolo sfogo, non so, forse sono fuori tema perché... sentito Piazza di Spagna, Roma, così. La mia era solo una constatazione, diciamo un Renzi di sinistra che fa continuamente questi accordi con Berlusconi, un Tavecchio che sbaglia clamorosamente a parlare e non fa neanche un passo indietro. Io vorrei sapere, ma cos'è che dobbiamo sopportare ancora? Cioè dov'è che andiamo a finire? Qui veramente siamo alla frutta di più. dica qualcosa lei. Ah, dico io, no, ha già detto lei, ha già detto lei. Io su Tavecchio ho già detto che secondo me cioè, mi piacerebbe vedere un altro a questo punto. Albertini potrebbe essere, perché uno che ha quella fedina penale, che ha anche l'età da pensione, che ha detto quelle frasi, anche se non è razzista, sicuramente non può, ma l'hanno detto tutti, insomma, non può rinnovare il mondo del calcio, il settore giovanile, dare una bella immagine dello sport italiano, sicuramente no. Quindi sono d'accordo con lei su quello. Il resto, Renzi, Berlusconi, quella è un'altra vicenda. Sentiamo un attimino Mentana alla 7. I negoziati per un cessate il fuoco più duraturo, è l'agenzia islamica MENA che ne parla, e quindi c'è la possibilità che davvero si apra uno squarcio dopo un'altra giornata scandita da finte tregue subito violate, anche se umanitarie, e anche episodi che questa volta non hanno riguardato soltanto Gaza, ma anche due distinti attentati a Gerusalemme. Ma partiremo in realtà da un fatto che riguarda la politica, una triplice marcia indietro del governo. Va bene, questo utilizzato. È il preambolo di Mentana, forse più avanti sentiamo anche i titoli di qualche telegiornale. Massimo da Roma, buonasera. Buonasera dottor Maurizio, vorrei ringraziare il dottor Leonori che ci ha risolto il problema della criminalità a Roma. Basta trasformare il centro in una grande autostrada o parcheggio, visto il riferimento che ha fatto precedentemente. Ma detto questo, sì, perché in effetti lei adesso usa l'ironia, però è vero che lui ha fatto un automatismo tra maggiore sicurezza, maggiore presidio del centro storico e la presenza delle automobili. Lui ha ma detto io credo questo. Che questo è un concetto che purtroppo nasconde la pigrizia romana al cambiamento. Io sì. Vorrei ricordare anche al vostro precedente ospite, adesso non c'è, ma circa 20 anni fa, durante il primo mandato Rutelli, vennero fuoco e fiamme quando si decise che nella bellissima Piazza del Popolo forse non era il caso che ci si parcheggiasse. Sembrava un concetto assolutamente marziano, come non si parcheggia a Piazza del Popolo. Sembrerebbe marziano adesso parcheggiarci. Sì, direi sì. Allora tutti i commercianti sì. Lancia in resta a dire che ovviamente ci sarebbe stato il fallimento in massa, poi per chi non è di Roma, diciamo, di tutti i negozianti che da Piazza del Popolo lungo via Cola di Rienzo portava a Piazza Venezia. Campano tutti, vivono bene, non ho visto crolli di fatturato. Credo che il commercio di Roma gioverebbe della pedonalizzazione non soltanto di Piazza di Spagna, ma di un centro che non è nato per le macchine, che sembra anche questa un'ovvietà, e credo che questo sarebbe l'unico motivo per riportare anche i romani a fare, diciamo, se vogliamo chiamarlo volgarmente, shopping al centro, perché ormai... Però mi scusi, quando il commerciante dice che sono chiusi alcuni negozi ai fuori imperiali perché c'è meno... Lei risulta questa cosa? Ma oppure guarda, pensa che sia una balla? No, io credo sia una balla, nel senso io fuori imperiali vedo le statue dei Cesari, non vedo negozi, al massimo vedo qualche chioschetto di bibite, nei dintorni non vedo gente che si sta suicidando, è pieno di turisti, le persone vanno e si fermano nei locali, e sì. È un fatto proprio di mentalità, di correlare il commercio al fatto che il cliente arrivi con la sua macchina di fronte al negozio, ci parcheggi e faccia shopping. Una cosa che è normale in tutta Roma, è una disgrazia, diciamo, che prende tutta la capitale, dove ovviamente siamo assediati dalle macchine. Il fatto di invertire questa tendenza in un centro che dovrebbe essere un nostro fiore all'occhiello. Sentiamo un attimo i titoli della 7, mi scusi. Tetto dei 68 anni per docenti universitari e medici, via la quota 96 che sbloccava 4.000 pensionamenti nella scuola, via le penalizzazioni per chi sceglie di ritirarsi dal lavoro a 62 anni. Il testo emendato dall'esecutivo approda ora in aula, forse con il voto di fiducia. Il ministro Madia, dobbiamo correre. E per ora a correre, soprattutto anche a causa dell'abbandono dell'aula da parte di un consistente gruppo delle opposizioni, è la riforma del Senato. Approvati 7 articoli in poco più di un'ora, stop all'indennità per i nuovi senatori, aboliti i senatori a vita, il capo dello Stato potrà nominarne 5 ma resteranno in carica 7 anni. Protestano i 5 Stelle, questa legge è una porcata, e lasciano l'aula di Palazzo Madama. Ora il principale nodo da sciogliere resta l'immunità per i futuri senatori. c'è la possibilità di una tregua, la concederebbero le forze palestinesi, Hamas e anche al Fatah, se ci sarà il negoziato, ma intanto oggi sono ripresi i raid israeliani proprio appena finita la tregua umanitaria di 7 ore. Stamattina, 6 minuti dopo il cessato il fuoco, uccisa una bambina palestinese di 8 anni. Tensione però anche a Gerusalemme, un palestinese travolge un autobus con un bulldozer e uccide un passante, la polizia israeliana lo uccide. Dietro pressione dell'Egitto, Hamas apre appunto a questa tregua. Nubifragi, allagamenti a Treviso, la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, si indaga sulle ragioni che hanno portato alla morte di 4 persone nei comuni di Refrontolo e di Pieve di Soligo. Gli ambientalisti attaccano, i nostri allarmi smottamenti non sono stati ascoltati, sotto accusa lo sfruttamento intensivo del territorio. Fabrizio Corona sta scontando senza nessuna possibilità per ora di sconti una condanna enorme, visto ciò che ha compiuto, 13 anni per tutta una serie di reati come estorsione fotografica, possesso di banconote false, bancarotta. Ne ha scontati 2 e ora si trova nel carcere di massima sicurezza di Opera, quanto ai detenuti più pericolosi, quelli al 41 bis. In sua difesa si è schierato a sorpresa Marco Travaglio, chiedendo la grazia. Se le telefonate di un premier in questura per fare... A sorpresa anche questo titolo del TG della 7 sulla vicenda di Corona, con questo appello di Travaglio che dice 13 anni per Corona sono troppi. Riprendiamolo, facciamo chiudere l'intervento. Massimo da Roma, prego. Grazie. Per me, come dicevo, sono assolutamente d'accordo che bisogna in qualche modo aiutare i commercianti nello svolgere le loro attività, aprire il centro nei momenti in cui hai necessità di fare carico e scarico in merci, ma una città e un centro che hanno 2000 anni di storia, che poi non è così grande, si può girare agevolmente a piedi o in bicicletta, debba essere chiusa alle automobili. Il fatto che si parli di un'idea contraria mi sembra in qualche modo abbastanza incredibile. Va bene Massimo, dobbiamo fermarci perché abbiamo la pubblicità. Grazie, buona serata. È attualità anche il viaggio nel mondo delle aziende a caccia di pratiche positive per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, fatto le scorse settimane a giugno da Zero Waste. Ritroviamo il maestro di Capannoli, Rossano Ercolini. Buonasera Rossano. Buonasera, buonasera. Presidente di Zero Waste Europe, è animatore di questa iniziativa che ci ha fatto scoprire, è un appuntamento questo che stiamo seguendo. Abbiamo seguito molto da vicino, eravamo anche media partner in qualche modo di questo viaggio alla ricerca delle aziende, perché Rossano, con te vogliamo scoprire il mondo dei rifiuti, aprire il cassonetto e sviscerarlo, e sappiamo che le aziende, insomma le imprese, quando il problema dei rifiuti si struttura a livello aziendale, si possono ottenere risultati ancora più importanti che non solo coi singoli comportamenti. Sì, sì, certamente il mondo dell'economia, il mondo dell'impresa è quello più impegnativo da cambiare, perché ci sono di mezzo i profitti, ci sono di mezzo consuetudini diciamo stratificate nel tempo, però dobbiamo dire che noi siamo partiti, abbiamo fatto partire Danilo Boni con la sua bicicletta elettrica, tra l'altro diciamo messa a disposizione da un'azienda che si impegna nella mobilità alternativa. Eravamo abbastanza, diciamo, non dico freddi, ma tiepidi, perché pensavamo di non incontrare un numero così elevato di imprese già adesso impegnate verso rifiuti zero. In realtà le 18 imprese che abbiamo premiato a Capannoli il 21 giugno in una cerimonia bellissima e partecipata sono in realtà un drappello rappresentativo di un numero molto maggiore. Già queste 18 imprese rappresentano più di 100 imprese a loro volta. Pensiamo, abbiamo premiato il biodistretto del Chianti, formato da aziende agricole e da aziende diciamo così della filiera corta dei prodotti agroalimentari, sono 52, così come abbiamo trovato moltissime imprese dell'accoglienza, hotel, ristoranti rifiuti zero, ma anche la manifattura, dove è più difficile trovare mettere a stimolo l'innovazione, reperire materiali naturali con cui realizzare i prodotti, anche la manifattura comincia a muoversi. Naturalmente il passaggio adesso non può essere lasciato nelle mani della volontarietà, bisogna che sia il Parlamento, bisogna che siano i decisori politici nazionali, bisogna che siano le politiche per promuovere impresa e occupazione che favoriscono la sostenibilità ambientale come binomio. Rossano, ci vuoi raccontare che cosa ti ha colpito particolarmente, qualcuna di queste esperienze? Non so, per esempio citavi il biodistretto del Chianti, oggi adesso l'attualità ci ha portato a parlare dei vigneti per tutt'altra cosa, per la questione di Refrontolo e di quello che è accaduto in Veneto, del fatto che togliere terreni, cioè boschi, farli diventare dei vigneti, in alcuni casi, secondo alcuni, potrebbe anche essere dannoso per la capacità di assorbire le bombe d'acqua da parte della terra, ma questo credo che abbia poco a che fare col biodistretto del Chianti. Sì. Ora io tra l'altro non sono in grado di crocifiggere, di fornire, diciamo così, delle diagnosi ad hoc, però sicuramente quella del Prosecco somiglia molto ad una monocultura, tutt'altro del biodistretto che del Chianti, dove notoriamente la Toscana è famosa per quell'equilibrio tra intervento umano e presenza naturale che nel corso dei secoli probabilmente in Italia ha trovato dei picchi più elevati. Sono imprese che lavorano sì sul piano, diciamo, vitivinicolo, ma anche su altri versanti, sul versante alimentare, sul versante dell'allevamento, ma anche sul versante di una commercializzazione, di un'ospitalità, quindi chilometro zero anche come capacità però di proporsi come spazio di soggiorno, come differenziazione del messaggio che mette insieme le risorse straordinarie del nostro paese, il paesaggio, la bellezza con la bontà dei cibi. Abbiamo una settimana fa avuto un incontro con Barilla, con Paolo Barilla, dopo la mia visita a Parma. Bene, Paolo Barilla, lo posso dire, anche se diciamo non, dopo due ore di incontro non abbiamo deciso di veicolare un comunicato stampa congiunto, è molto preoccupato, perché se parliamo di Food Valley, per esempio, sì, nella realtà di Parma, dobbiamo sostanziare con un progetto che punti sulla qualità ambientale per qualificare le eccellenze agroalimentari di cui è famosa nel mondo. Cioè bisogna un po' farla finita di predicare bene e razzolare male. Quindi insomma ci stai dando quasi una notizia, cioè Zero Waste, Rossano Ercolini e il Movimento per Zero Rifiuti ha incontrato Barilla e state lavorando a qualcosa. Sì, è stato Barilla, devo dire, a chiederci di non avere incontri episodici, magari sugli inceneritori, sì. Loro sono preoccupati ovviamente, però a loro interessa qualificare la Food Valley, qualificare il messaggio agroalimentare del nostro paese. Non dimentichiamo che l'Expo quest'altro anno è proprio certo dedicato a nutrire il pianeta, quindi se non arriviamo preparatissimi è il valore aggiunto, è l'armonia con l'ambiente, l'armonia con la cultura. Ecco, sempre, questa sì. Sempre per promuovere impresa, per promuovere posti di lavoro, certo. L'economia naturalmente ha anche dei passaggi stretti, nessuno vuole eludere che parla anche il linguaggio della competizione, non sempre nemmeno leale, ma se noi non poggiamo ambedue i piedi sul nostro bellissimo paese che è fatto di paesaggio, è fatto di cultura, è fatto di qualità ambientale, io credo che non andremo da nessuna parte. Barilla ci diceva: non possiamo vivere di rendita. Senti, non so se hai già detto chi è che ha vinto poi alla fine, chi è che avete premiato per quanto riguarda questo viaggio che avete fatto a giugno, lo hai ricordato o lo vuoi ricordare adesso? Sì, sono 18 imprese e hanno vinto tutte? Sì, certamente noi abbiamo prima comunicato l'avvenuta nomination, sì, che diventava automaticamente premio sulla base di motivazioni che abbiamo letto, sì, durante la cerimonia. No, credevo che ce ne fosse stata una e che avesse spiccato sulle altre. No, allora perché questa notizia non c'è da darla. Invece, a parte è interessante, mi interessa l'F corta, non per parlare, diciamo, per, sì, giocare sull'S lunga, però sicuramente ci avete pensato anche voi. Cos'è l'F corta, Rossano? L'F corta è un negozio promosso da un gruppo di giovani un po' più di ventenni che sono venuti a Capannori per la immagine ambientale del comune di Capannori, erano del comune capoluogo di Lucca in, in prevalenza, sono venuti a Capannori, hanno, hanno con 80.000 euro avuto in prestito il, diciamo così, il mago, il genio della, della, della bottiglia che ha promosso questa, questa esperienza, sì. Pietro Angelini, un grande mio, mio amico e una persona di grande spessore culturale e imprenditoriale, ha dovuto firmare l'ipoteca sulla propria casa. Ebbene, comunque dopo un anno e mezzo, sono riusciti a restituire questi 80.000 euro. Adesso F Corta ha aperto a Milano, è un terzo negozio, è stato aperto recentissimamente a Prato. È un negozio dove filiera corta e assenza di imballaggi, soprattutto imballaggi plastici, formano un binomio affascinante. Tra l'altro, sempre. Certo, affascinante, sembra una cosa pionieristica, come sempre, sembra una cosa da, da piccole nicchie. Mi risulta, adesso però non ho il nome della catena, che in Francia ci sia una catena di supermercati che fa esattamente questo, che sta andando molto bene. Non so se ti ho colto alla sprovvista o la sapevi questa cosa qua. In Francia c'è una catena di supermercati che fa questo, quindi non parliamo solo di nicchie. No, no, no, no, non, non conosco in dettaglio la catena che citi. Ci informeremo, però, ci informeremo e sapremo dare anche questa notizia. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità, anche d'estate. 800 24 0024, abbiamo Simone che ci chiama dalla provincia di Alessandria, buonasera. Pronto? Simone, buonasera, tocca a lei. Buonasera, grazie. No, volevo riprendere quanto detto dall'ascoltatore di Roma, sì. Perché mi trovo profondamente d'accordo con lui, io chiamo dalla provincia di Alessandria, ma fino a 5 anni fa vivevo sui Naviglia a Milano, quindi comunque una grande città. Io credo che sia una protesta tutta italiana questa contro le pedonalizzazioni dei centri storici, anche perché fino a prova contraria nelle maggiori capitali europee tutti i centri sono pedonali, si parla di Parigi, si parla di Lisbona, si parla di Praga, Berlino, ad agosto andrò a Londra, verificherò se anche sì, ci sono, diciamo che nelle città europee ci sono zone pedonali, prettamente pedonali, dove le macchine non possono proprio entrare, ci sono zone dove ci sono limitazioni al traffico, per cui possono entrare solo veicoli privati. Lei ha citato i Navigli, i Navigli a Milano sono così, non è che sono del tutto pedonali. Sì, no, io non dicevo i Navigli a Milano, intendevo i centri storici, centri dove diciamo i centri dello shopping o il centro, proprio la zona centrale delle maggiori capitali europee, Amsterdam stessa, che peraltro si gira in bicicletta, sono zone dove o si va a piedi o si va con i mezzo, si va col taxi. È una protesta del tutto italiana quella contro la chiusura dei centri storici, la stessa cosa era successa a Milano quando volevano chiudere Corso Buenos Aires, ma proprio come ha detto l'ascoltatore di prima, perché c'è la convinzione che se uno vuole fare shopping deve parcheggiare la macchina davanti al negozio, ma quando mai? Non si è mai visto, anzi probabilmente se tutte le persone e me, anziché andare in un parco o fare qualcosa di meglio, si rientravano in un centro commerciale perché c'è la possibilità di andare lì e girare nei negozi in macchina, la macchina la si lascia fuori e poi la gente gira nei negozi, quindi probabilmente succederebbe il contrario, una volta che i centri sono chiusi e sono facilmente raggiungibili, poi uno si muove da un negozio all'altro, da una via all'altra, magari aumenta anche la possibilità di fare compere, certo magari non le camicette da 200 euro, credo che forse poi sia il prezzo della camicetta che riduce forse un attimo gli introiti di quel negozio. Questo anche è possibile, non ci avevo pensato. Simone, che dire, ad Alessandria ci sono zone pedonali? Guardi, io in realtà vivo in un paesino di 700 anime, sono passato dai Navigli di Milano a una zona di 700 anime. Però non la sento triste, la sento allegro. No, quindi tutt'altro. Sono convinto che se Milano facesse delle, Milano e credo anche Roma facessero delle scelte come quelle che sono state fatte in altre capitali, sì, ne avrebbero solo da guadagnare. Ma guardi che semplicemente Padova, piazza Prato della Valle, non si può arrivare in macchina. E dietro sì, sì, vabbè, adesso Valle, è inutile che facciamo l'elenco di tutte. Grazie Simone, buona serata. Giovanni dalla provincia di Venezia, prego. Buonasera. Prego, tocca a lei. Sì. Ecco, io volevo raccontare in questa Italia malandata, dare una testimonianza di un'impresa in cui si può fare veramente qualcosa di importante, sì. E in questo caso mi riallaccio anche a quello che stavate raccontando prima sulla ricchezza che può venire dai rifiuti e dal miglioramento dell'ambiente. E sostanzialmente vi volevo parlare di Wow Technology, che è una società nata nel 2012 che sta portando avanti un sistema di trattamento dei fluidi che si basa su un'invenzione fatta da un ingegnere italiano di Padova. sulla quale ha messo, diciamo così, la propria attenzione l'Università di Pavia. A Pavia esiste l'ENA, che è il laboratorio per l'energia nucleare. Sì, sì, ma non è la prima volta che qualche ascoltatore chiama per dire questa cosa. Ma lei cioè, ci lavora? Che cosa ne sa? È un ricercatore? Si occupa di questo? Ecco, io sono tra i soci che hanno finanziato l'impresa. Ah, ecco, volevo dare, ecco, sì. Volevo, quindi ne parlo anche insomma con conoscenza. E, sulla base di quello che è stato fatto dall'Università di Pavia e dall'equipe del professor Odone, che è uno dei radiochimici sopravvissuti, diciamo così, al referendum dell'89. Vabbè, però adesso scusi Giovanni, ma questo cos'è, uno spottone per la vostra azienda? Non è che sia no, molto... No, volevo sì. solo dire che oggi è stata realizzata una macchina che verrà portata nel sito di Saluggia, che è un sito in cui verrà fatta un'operazione di decommissioning in ambiente, quindi dalla parte, così dalla fase universitaria. Vabbè, con questa tecnologia italiana, va bene, è giusto dirlo, è una buona notizia anche questa. Grazie, sì. Grazie, buona serata. Gianni dalla provincia di Padova, prego. Sì, buonasera. Prego, tocca a lei. Volevo dirle, riguardo alla questione di Treviso, è che sono in netto disaccordo con lo studioso di Roma che dice che facendo il disboscamento e piantando i vigneti è stata la causa praticamente dell'alluvione. Mm-hmm. È l'esatto contrario, perché quando si lascia il bosco che non è curato praticamente si formano delle pozzanghere dove che se non piove un'altra volta, se non viene una brentana d'acqua va tutto bene, ma in questo caso le pozzanghere d'acqua ristagnanti, perché il bosco non viene curato, provocano le frane e sovralimentano di colpo la... Scusi, ma lei che chiama dalla provincia di Padova, in quella zona ci sono molti boschi a Refrontolo, in quella zona lì? Io non o ci conosco. Sono più vigneti? Sì, ci sono vigneti e sono assolutamente d'accordo con l'ultimo... No, ho capito che lei è d'accordo, però io le chiedevo se in quella zona ci sono o no boschi. No, io però lavoro i campi e conosco bene come funziona il discorso. Sì. E poi vabbè, sono assolutamente d'accordo con l'ultimo ascoltatore che ha parlato. Sì. Questo. Quello di che abita a metà tra l'Italia e la Svizzera, quello lo farei il ministro dell'ambiente, perché ha capito perfettamente come funzionano le cose. Ecco. Va bene, grazie Gianni, grazie, buona serata. Buona serata. Andiamo con chi andiamo? Con Vito da Bari. Salve, buonasera. Buonasera. Io volevo intervenire, volevo fare un passo indietro, perché c'era una deriva positiva sull'ecologia, insomma, come discorso. In realtà io volevo puntare su ciò che avevo sentito da un vostro ascoltatore precedentemente, sulla fretta di fare leggi, di andare a chiudere leggi senza ostacoli e con il minimo dibattito. In realtà l'ultima volta che abbiamo fatto questo ci siamo ritrovati alla legge Fornero nel giro di 2 mesi, una legge che per anni nessuno riusciva a raccapezzarsi, è venuta la Fornero, ha fatto in 2 mesi la legge e ci ha trovato nei disastri più totali, c'è gente che è rimasta ancora tuttora fuori, altri amici che io conosco sono disorientati al massimo. In realtà non è che bisogna sentire le ragioni di chi dice no a determinati emendamenti, no a determinate leggi, eccetera. Bisognerebbe ascoltare, non lasciarti andare a quello che va dice bene, un va bene, capo capito, del governo, sì, insomma. Sì, sì, non ma è possibile una cosa del genere. Ma questa fa parte della dialettica, l'opposizione dice quello che vuole dire, il governo va avanti, ascolta, a volte non ascolta. In questo caso bisogna dire una cosa, che di tutte le opposizioni possibili, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, almeno una parte, Forza Italia, è stata coinvolta in questo. E questo forse è un inedito, cioè non è mai successo. In passato le riforme sono sempre state fatte solo dalle maggioranze del momento, questo va detto, va dato atto a Renzi di questo. Faccia dire però una cosa, perché poco fa è stato bocciato anche l'emendamento dell'articolo sull'immunità, quindi il Senato ha bocciato tutti gli emendamenti aggiuntivi bla bla bla bla bla, per cui vuol dire che l'immunità resta così come è per i deputati anche al Senato. E questa è una conferma, sì, chiedo scusa, questa è una conferma di quello che intendevo anche dire. In realtà le leggi che andrebbero veramente fatte in maniera rapida, tipo la gestione dei soldi da parte dei deputati, perché hanno ancora delle diarie, hanno ancora i segretari che sono pagati direttamente da loro, invece ci vorrebbe una legge che dipendessero dal Senato o dalla Camera, come parlo, come stipendi, così come non riusciamo addirittura ad abbassare leggermente la soglia dei dipendenti dei commessi da 250 mila euro l'anno, non riusciamo a ritoccare questa cifra. Io questo è quello che dico, cioè è possibile che gli unici diritti che si possono toccare sono quelli più deboli e quelli più forti rimangono forti perché sono consolidati? Cioè qui non è che c'è una parte che è privilegiata, che è consolidata nei propri diritti e un'altra che possiamo fare quello che vogliamo. Noi questo io non ci sto, ora bene, potete anche tacciarmi di qualunquismo. No, mi capito, ognuno, questi, questi insomma. Va bene. Una spallata e dare più fiducia proprio approvando quelle leggi più semplici che andrebbero a dare fiducia anche a noi, insomma, a credere di più. Grazie Vito, abbiamo capito, buona serata. Andiamo con Vittorio da Pescara, buonasera. Vittorio? Non c'è Vittorio. Allora andiamo con Gelsomino da Roma. Buonasera. Prego. Buonasera. Io volevo intervenire riguardo alla chiusura di Piazza di Spagna. Sì. Facendole presente che io, essendo forse non vecchio d'età, ma vecchio tassista, sta prova, sto con l'auto, sì, di chiudere Piazza di Spagna col tridente, è già stato fatto negli anni, adesso di preciso, negli anni 90, quando è stato formato il tridente, adesso non ricordo di preciso l'anno. È stato provato sulla pelle della gente che noi, per attraversare quel punto nevralgico che è il centro di Roma, l'unico attraversamento che c'era rimasto era quello. Però scusi, non è che si entra, non è che si attraversa Roma passando la Piazza di Spagna. Scusi Gelsomino. No, glielo chiedo, io non sono di Roma, però non mi sembra che si... Io dico che voglio passare per Piazza di Spagna perché mi piace vedere la fontana. Anche no, ma questo sarebbe fontana, legittimo, mi sembra meno fontana, legittimo che uno attraversi Roma passando per Piazza di Spagna, non mi sembra molto. No, anche perché sono... è da sempre che ci passiamo, non rompiamo le scatole, si va a 20 all'ora, anzi a 10, si va a passo d'uomo. Va bene Gelsomino, dobbiamo chiudere, mi scusi, dobbiamo chiudere, grazie, buona serata, grazie a Lorenzo Nespoli, Camilla Tomadini per il lavoro in redazione, Fabio Cantadori in regia, ci sentiamo domani dalle 18 alle 20:30, buona serata, ciao a tutti da Alessio Maurizio. Ciao.